Ravenna si può montare alla grande, non qua qua qua, non cia cia cia, come ha detto qualcuno, alla grande viene un bel lavoro, quindi tu prendimi quello che io ti ho detto e il lavoro noi lo facciamo, quando vuoi. Guarda, c'è molta gente, io tu e un altro, uno che mi mantenga l'altro tubo dall'altro piano a me, e poi il resto va da solo, capito? 9.25, sì, alla grande. Io lo dico, devo lasciare quella, devo lasciare quella, sì. Marco, e tu dove sei invece? Sono le belle notizie a me, quando la gente fa funzionare la testa, capito? Queste sono le belle notizie, eh? Fate la brava e voletevi bene, che non è successo niente, molto bene. Quindi Marco, visto che siete insieme, io voglio quell'antenna tua, non ne voglio altre. Sì, come detto, la prossima la ordinerà, dai, che fa? Che pare, che mi la piaciuta. Però quella che sta fatto vende di più e vede la nulla. Sì, sì, sì, va bene, va bene. Anche quella lì, però 90 euro io non gliela pago quell'antenna a Tonino, capito? Neanche io gliela pago 90 euro. Mi sembra Mi sembra troppo esagerato quel prezzo. E che cacchio, cos'è? D'oro che l'antenna? Ah, io non lo so, sarà d'oro. No. Assolutamente negativo. Quindi signor Marco, preparati, perché appena è pronto Natalino, vieni a darci una mano, intanto non devi fare fatica, capito? Assembliamo l'antenna assieme e poi la tiriamo su, va bene, da terra. E poi facciamo tutto il resto del lavoro che c'è da fare, ok? Siamo a terra, tu devi dare una mano a me, dove ti dico io, ma soprattutto assemblare l'antenna, assemblarla, vulcanizzarla, una mano devi dare, una mano, poi per il resto ci arrangiamo io e Natalino. In realtà lo sa Natalino cosa mi serve, senza fare molta pubblicità, lo sa Natalino quello che devo comprare, capito? Stiamo facendo una modifica da come adesso a come deve essere, perché sopra là non si può andare, allora stiamo facendo un'altra modifica, che Natalino ti spiega. Sì, sì, sì, ma infatti non è che ce la fare molta pubblicità. Il problema è che quell'antenna si può montare alla grande, si può montare benissimo, bastava solo fare andare un po' il cervello, capito? Ma qualcuno il cervello c'è talmente piccolo che non sa come farlo andare, quindi ha trovato mille difficoltà. Infatti spiegare a Natalino, si toglie quella che c'è, la staffa, quella bassa, si mette uguale all'altra e da lì si fa il lavoro. Esatto, siccome devi venire tu, quel lavoro te ne occupi tu, ok, di prepararmi l'antenna, visto che te l'hai montata tu uguale a quella. E io con Natalino facciamo il resto. Siamo noi, io stamattina ho fatto un sopralluogo e praticamente c'è una modifica da fare, perché è assurdo appendersi come le scimmie. E quindi infatti ho fatto questo cambio, lo sto anche facendo al computer, no? In modo che sappiamo quello che dobbiamo fare. E dopodiché si va a fare quel lavoro che Natalino ha già visto come io ho progettato stamattina. Ora Gumbenito, se un genio si chiama, che tu mi dai Gumbenito tu? Esatto, sì, io non ho sentito. Altrimenti l'avrei risposto, tanto qua sto stampando. Aspetta un secondo, sto stampando. Noi so stampare e poi vediamo. Vediamo un po' intanto se c'è Eugenio. Attenzione Eugenio, Eugenio Porto Torres, Sassa richiama, cambio passo. No, c'è, Eugenio non c'è, ci sarà solo la lampada, è rimasta senza Eugenio. Portalo in giostra, un bombone in giostra, è lì questi volanti. Quando c'è in atto, ricudi un'impinta e te lo cudi gli osci. Lui sta perdendo anche il coso di volare a posto di stare drumito. Cosa vola, ma cosa vola? Mazza di Nevaria, Marco, ui. Mentre l'altro uccello non si è sentito, Gianni. Quella è 5 perfetta. È perfetta, sai, devo dire, perfetta, la grande. A casa, dopo tanti disoccupamenti, non mi ha risposto nessuno, manco tu, in gamba, gli stessi. No, io Gemi, avevo il volume basso, era il computer che stavo facendo una, chiamiamolo progettino, vai. E quindi è impegnato, capito? Adesso ho tirato sul volume, anzi, c'avevo il volume tirato su e ha chiamato Marco. Invece Marco è un attalino in macchina, capito? Se no ti avrei risposto alla grande. Marco, lo senti a Natalino, lo senti a Eugenio? Sentito a Eugenio? No, negativo, qua non arrivano. Non arrivo, da piazzare segni, non ti arrivi in macchina. Io come sto? C'è un sacco di QRM qua, c'è il QRM che sta a Non vi sente. Ma è il tuo di Natale? Sì, esce bene però, porca miseria, esce bene. Cosa stanno provando? Esce bene. Cos'hai detto, genio? Che apparato stanno provando? Non ho apparato per la macchina, normalissimo. Ho apparato piccolino per la macchina, capito? Niente di particolare. E dove siete andati adesso? Scusa Marco, che ero dietro la scrivania, non ci arrivo con la mano al microfono, che mi c'è fatta la tappante, stavo togliendo la carta. E te Gioia, era da Pignara. Il solito correme allucinante, non so cosa cacchio sia, già avevo due di correme, mi è salito a 5-6, ma così di colpo, sto controllando, ma non c'è niente che possa fare, mi è salito il correme, vabbè forse c'è due computer accesi, ci sono, lo so. Disturba un bacino, però non voglio manco più il VRM, mi sa che ho all'impicco, non ho male, vabbè, adesso ho finito di stampare, stacco tutto, e mi metto a posto, ecco qua. Bene Meda, dove siete? Ok, va bene. Giusto per capire una cosa, ma siamo giusti in mezzo allo stendino, per capirci, la tarì, capito? Abbiamo addirittura 10 cm in più. Ascolta, mi avevi parlato dei radiali, Claudio, ne volevi mettere due? Guarda, due e si mettono fronte strada. Uno deve andare per forza verso il muro, quindi bisogna avere, io se infatti quella distanza che ho calcolato, mi sembra troppo poca la distanza, capito? A meno che non si curva leggermente dei 10 cm in più, ma comunque quello non è un problema, lo vediamo dopo. Sì, sto guardando, sì, ci stanno tutte e tre perché praticamente adesso non avevo calcolato che stiamo aggiungendo altri due elementi di tubo, Gesù, 40-50 cm in più, calcolando gli altri due elementi che aggiungiamo all'altalamo. Dille, se si fanno trovare a Plattamona le istituisco anche il microfono. Sì, se andate a Plattamona, Eugenio vi paga il caffè e ti restituisce anche il microfono. Sì, ma non spende la mente, la benzina è contata. Andiamo, ecco. Dove, Eugenio, dove vi trovate? La rotonda? Sì, la rotonda. Ma adesso mi non come mangiare. Bisogna lasciare, però, se gli dai un tempo di fare strada, non ha un elicottero. Ma vuol dire iniziare a scendere. Oh, ripeto. Iniziate a scendere, che lui è a casa e sta venendo a Plattamona. Ehi, alla rotonda, così si restituisce anche il microfono. Per un momento l'ho beccato a Marco. E adesso come c'è la Sassari che fa il vialotto, finiti a scendere verso la QDV, già lo senti. Esce bene dalla macchina lui, perché l'è mezzo ai palazzi. Sì, lui da ieri sono del Simone, ce l'ho acceso la caricata, lui sono da scendere. Sì, vabbè, tu sei col furgone, rimane sul 10, cioè ci sono anch'io qua, non c'è problema. Se mi vuoi che sono sul 10. Hai finito di vivere. Dai, passa un po' là, ciao. So che non me lo faresti mai questo viaggio, già Eugenio. Sono qua, preparati, dai, quando li prendi dalla macchina sono qua comunque. Sì, attacco. Cappa del Roggero. Dai, iniziate a scendere. Scendete. Che Eugenio si sta preparando, sta scendendo a Plattamona. Venga, guarda che con la lato che stiamo fatto un effetto. Non ne hai tu fisico per guidare Lamborghini. Fisico per guidare Lamborghini ce l'hanno in pochi. Capito mi hai? Posso guidare la Lamborghini? Io posso guidare la Lamborghini al vecchia. Allora, gappa. Dai, iniziate a muovervi. Che ne ritiro un po' di roba qua, se no vi comprendo più un accidente. Già sono qua, sono qua, non ti muovere che sono qua. Chi è che chiama a voce alta, cambio? Ho tanto lo straniero, e dove sei? Sirigo, molto bene, arrivi, costa. Non c'è problema. C'è Marco in macchina, quindi non ti sente, però tu già arrivi forte e chiaro. No Marco, sto dicendo a Costanzo che a Sirigo vi saluta tutti ma non vi sente, capito mi hai? Costanzo lo straniero. Un saluto, un abbraccio anche a Costanzo, dichiarò, anche un bacio a bocca. Ha detto Pipistrello, Marco Condoro, un abbraccio grande e un bacio Costa, passa via, mamma mia. Guarda che faccio bene io, anche con la lingua, anche con Lucie, attento mi Natalì, ho trovato anche abbraccio, isso, buzioso, passa via. Ma che farà musica Pipistrello? Allora, niente gioia a fatto, Pipistrello c'ha le pulci, Ciao Marco, guarda che Pipistrello, la notte prendono le pulci, prendono, e poi gli scende il sangue dalla testa. Ma non si chiama anche il Natalino, è il Santo. Ha ricambiato. Ricambiato Marco, salutami anche tu a Natalino. Niente, buonasera Claudio. Sì, un segnale di 3, radio 2 e 3. È un'antenna tipo baracchetto forestale, dai, come stiamo arrivando? Ho detto, sì, un segnale di 2, 3, modulati 3 e radio 2. Come ti vai? Sì, noi due cose volte, questo non si niente, la radio. Vabbè, il segnale è un po' deludente, dai, vabbè. Già metteremo mano anche qua. E adesso cambia aumentando, si è arrivata a 5. Ehi, vabbè, dai. Era ferma tanto tempo, la scena magari è un po' da scontrare, la stagione, vabbè, la scontrata è fatto. Ehi, capo. Avanti Claudio, buonasera. Ciao, bravo, buonasera. C'è Costanzo, nella zona di Sirigo, non so se ti arriva a te, vediamo dove è arrivato. avvicinamento discesa Florina, se cambio. Negativo, non lo sento io a Costanzo, non so se lui sente a me. Comunque niente, dai, salutoni a Costanzo, se mi sente, se no me lo saluti tu. Sentito là a Franco l'associo, Costa. Costa, tu mi sentivi, ma com'è? Ma io poco fa ci mi hai sentito, ho detto, mi si è alzato il QRM a 1000, non ho capito perché. Scarica allucinante QRM a 1000, così all'improvviso, adesso ha calato di nuovo, evidentemente c'era qualche perturbazione di passaggio. Se no è come ho spento la stampante, che stavo stampando della roba, mi ha fatto stare il QRM, e se no ti avrei risposto, perché io da quella zona, quando mi chiede lì, in fase di rientro, ci sentiamo spesso, capito? Va bene, Fra, lascialo avvicinare che non ti senti ancora, non ti senti. Vediamo un po' dove è arrivato Marco, dove sei? Ah, perché non andate a farvi un giro invece di stare lì a passarci il tempo alla radio? Oh, Bossolo, tutto è ripiazzato. Tutto è ripiazzato, Sato, a posto. Gaffa, ciao Claudio, Franco, lo straniero, pugna a capo, se mi ascolta. Sì, sto piazzando tutto, com'è? Bene, bene, va bene, non c'è problema. Ciao Sandro, buonasera. Ciao Sandro, buonasera, ben ascoltato. Ciao anche a Eugenio, avanti a te. Eia. Cosa ha sentito lei a Sandro da Borgo Torres? Ciao Costa, dai, in mezzo a QRM comunque ti ho tirato fuori. Dai signori, rimango in ascolto perché sono un po' indaffarato. Vi ascolto. Marco, non ti ascolto male. Cosa ha detto Cla? Non ho capito io perché ha parlato di genio e l'ha sovramodulato. Cosa hai detto Marco? Eia, ma il mio però non lo do a nessuno. Fatelo toccare a me, ho sentito la fortuna anche a voi. Eia, va bene, dai. Che devo completare qua? Tutto, sa, non manca niente. Tutto, dall'A alla Z, tutto. Ma ti hanno recuperato tutto, Sandro? Eia, tutto quanto, tutto recuperato e tutto tornando a casa. Ah, buono. Poi chiamami quando metti a posto tutto che mi spieghi, ok Sandri? Ok, cosa è successo? Cosa è successo? Non metto in gas e stai buttando un gatto via. Sì, davvero? Ma già si è mosso come si deve muovere lui. In giro di neanche 8 ore ha recuperato tutto, manco male. Sì, meno male, cavolo. Qua bisogna stare attenti. Troppa gente da Rosengi. Troppa gente che si è fatta troppo pari, va a finire male, però è un pesce. Non so, però meglio non provarla mai, meglio non provarle noi. Infatti, ce l'abbiamo di letto, poi ce ne era riusciti da retto. Vabbè, comunque, è andata bene. È meglio, quindi sono contentissimo, ma è riuscito a muoversi in tempo e poi conoscente che c'è Sandro, ha mosso Mario Monti e ha trovato tutta la furtiva prima che sparisse. Va bene, mando le ciance, vai, sistema tutto Sandri, poi ci aggiorniamo al telefono. Ragazzi della via Cruci, sì, dove siete arrivati? Cazzo, ma cazzo se ne arrivi, ma indietro. Oh, è un rivuga di Tughira. Ah, non entro da qui, ho buttato. Ah, bene, l'ha attaccato, dai, Ratapignara. Ma cosa fatto c'era? Ah, zitta, io zitto, lo stai sovramodulando a Marco. Marco, ti sovramodula Eugenio, va bene, troppo dottore, si scema vergogna, cazzo. Va bene, dai, va bene, incontratevi a Plattamona, datevi un bacio, prendetevi un caffè alla faccia mia, dimmi cosa. Spesso hai Eugenio, se l'ha detto cosa, se ti passa vicino ti brucia l'antenna. Quando vuole, lo sento piccolo, dimmi cosa, se mi senti, lampaggi tutto. Se c'è un po' tutto costato, allora cosa sarà? Ti dici quando vuole chi in macchia? Oh, ma poi c'è una cosa che la Plattavola lì, quella zona lì che io li ascolto tutti a bomba, io che non intendo di un mai. Voglio che ti dica, è trattando un baracchino piccolino, ma l'antenna per la buona, non lo so che fine ha fatto. Una cosa strana anche. Vabbè, io, guarda, se mi lasci di così cadere a parte, buco la macchina. No, è a te costa, è a Marco, che non arrivi da Plattamona, non arrivi a Sussu. Costa. Aspetta che lo chiamo, Marco! Attento Marco, ratta pigliata, ci sei? Volete parlate in due, Eugenio con Costanzo. Siete tutte e due talmente forti che non ho compreso nulla. Cosa hai detto Costa? Superato San Martino, avvicinamento a Sassari, molto bene. E tu oggi dove sei? Stai andando? Discesa a Monterrasio, va bene, va bene. Marco, mi ascolti? Non ti sento. Ciao a te. Ciao, ciao a tutti. Ciao, molto buono. Come Marco non arrivi a scesso da Plattamona? L'ho visto poco fa la GBC, l'ho visto. Stava finendo un'antenna della Energy Cast. A me mi ha sparato 80, alla taglia 90 oggi. Ci ando io con un pareggio un po' 70, lo vedi? Sì, sì, è così. Se vai tu sei capace di tirare 70 euro. Infatti non ho detto niente io. Con me sicuramente ha sbagliato. Sicuramente ha sbagliato con me. Ma oggi mi sembra tanto la bipoletta così poco, perché è un'antenna che costa quella cifra lì, però di solito faceva lo sconto, perlomeno a me mi ha sempre fatto lo sconto Tonino. A Talino 90 euro, a Antonello 80, si andò io domani luni, me l'era già 70. Direzione che nella confusione con me ha sbagliato, è tranquillo, è subito io. Se quel mio amico domani gli porta l'antenna nuova dal negozio, quello che mi ha promesso che non ha mai usato, la mia la prendo, eh. Marco, dimmi, 60 euro. Ma io sono entrato e gli ho detto se aveva l'antenna Energy che me l'avevi suggerita tu, stesso. Mi ha detto sì, me l'avevi fatta, mi ha dato 60 euro. Mi ha dato 60 euro e me ne sono andato. Ma come sicuramente ha sbagliato, capito? Come ha sbagliato sicuramente, se sta dicendo le cose così, come ha sbagliato, ma peggio per lui. Dice bene, Eugenio, lo senti o fa? Come Eugenio? Ma che ti vuole bene, dimmi un po' pugno, dimmi. Ma quella tella bianca ti serve ancora a te? No, negativo, a me. Ti rabbigli, se ti serve te la do. La prendo, la modifico, voglio fargli la modifica, vedi se funziona. Quando vuoi me la porti non c'è problema, già sono qua a casa. Ah, che lo mandi, lo parlo male, quando vuoi tu. Va bene, d'accordo, non c'è problema. Invece noi tu hai una base, quella farfalla, quella base piccolina, la mia antenna. No, non ne ho più di quelle basi lì. Un amico mio ce le aveva con le basette lì complete, con insieme all'antenna. Ma siccome ci ho bisticciato col corpo, e quindi non ci vado a chiedere niente. Se no te l'avevo regalate anche 5-6 di quelle antenne. Se sta parlando mi sembra 15 o 20 di una, se non mi ricordo male. No, ma io l'antenna ce l'ho, mi manca proprio la base piccolina, capito? Ho capito. Non ce l'ho no, con la base lì, se non te l'avevo data. Eravamo tutte regalate, quel tipo di basette. Capito? L'unica cosa che mi è rimasto è lo stilo della cosa, della mantova. C'è lo stilo, il radiale della mantova. Se c'è un mollone di Sigma DX, ti fai la Sigma DX nuova, un mollone grande. Ehi, è positivo questo. Sì, che ti ha tolto. Signore di 6, 7, radio 5. Ehi, capo, vai. No, perché strano, perché io tutta la vita venuti sino a Sassari e scendendo sino a Plattamona mi arrivano tutti a bomba, mi arrivano lì. È strano che tu a volte non ti senti. Ehi, a me dai, le cose sono state andando. Capo, ma siete a Sassari oppure a Plattamona? Ah, sì, ok, dai. passi in macchina, prega, è fortissimo, sia del radio e segnale. Ciao Natalino, proprio adesso sono in zona negativa. C'è quello su, no? Stavo io. Sono qua. Sta parlo, giovane, non sentivo più nessuno. No, stavo come te la posso qua, no, non mi... Se canta un buco, o il radio spostato, togli un po' di polvere. Solo mia moglie a passare la scopa e la vuole per terra, però il radio purtroppo ogni tanto bisogna spolverarle. Caparroce, lo fai bene, non è una cosa per te, ma pensi? Se no, non va bene, non va bene. Lui, Franco di socio. E allora, per le pulizie, sì. Ciao, contatto, vi ascolti adesso. Caparroce, lo fa, buonasera, adesso ti sento forte e chiaro. Vai, qua, avvicinamento, motorizzazione, corsia per dottore, scappa. Anche tu arrivi benissimo, adesso arrivi, vedi, quando funziona la radio si sente la gente, visto hai qua. Allora, no, ma c'è di manco che funziona, anche appunto l'antenna di plastica. Sì, vabbè, magari ci potrebbe essere anche qualche saldatura fatta male. Secondo me pure, capo. A parità di questo quasi quasi quello che vuoi che vuole spendere, che c'è la Tornado che è buona, 5 ottavi. Ma è leggera, deve essere leggera, non pesante, insomma non ingombrante, perché abbiamo un posto obbligato per metterla, è un lavoro molto molto delicato, capito? Fatto sopra l'uovo stamattina, ci aveva tutti i misuri. Deve lavorare da terra, dalla strada deve lavorare questa, ma poi bisogna partire a 7-8 metri. Chi è che sta cambiando l'antenna praticamente? Natalino, devo montare l'antenna la settimana, stamattina l'ho fatto sopra l'uovo perché sono andati, non si può piazzare, mille difficoltà, ma io difficoltà non faccio. Se fatti pure non c'è problema, no? Anche se dalla strada, tanto si deve fare la carriera, 7-8 metri dalla strada. Sì, diciamo che secondo piano puoi attirare su tutta la facciata, però è senza tetto, Come la fisi, sta fermo al muro? Sì, l'assello chimico sta fa muro, e via, e su che andiamo? E sta fare oggi, ho già reso l'assello chimico, non è lasciato, la facciata ne ha fatto, ma lo rimani. Cantoni, manco l'assello chimico lui, chi so, cantoni bianchi. Ci vuole l'assello chimico al cantone, Claudio, diventi la barra filettata, sia pure. Infatti quello facciamo, capito? Ci ho fatto sopra la volta mattina, ma faccio una modifica perché la staffa che c'è in alto è troppo alta, quindi ci facciamo con le staffe nuove e si mette a facciata come deve essere fatto un lavoro, grazie a Dio. No, ragazzi, ringrazio. Io ti sento pio qua, io qua sono superato Conferama. Sentito, ecco qua, superato Conferama. No, Eugenio, superato Conferama, arrivi pio. E sei contento? Ci andiamo a piedi, ma arrivi prima. No, ma dimmi, come tutti che ci rimaniamo i figlioli, arrivo subito. Eia, Eugenio, ci andiamo a piedi, ma arrivi prima. Scusa, verso Alghero stai andando? No, negativo, vai, mi darà 4 corsi di Alghero, mi allaccio la camionale per scendere a Porto Torres, che sono passato a fare da solo. Ah, capo, sì, va bene, anda bene. Aspetta, oggi arriva forte qua, arriva, figurati se non lo ascolti tu, ma dove sei? Sì, lo ascolto, l'ho sentito. Ehi, vabbè, a me mi sta arrivando segnale 995, radio Super 5. Dai, oggi io c'ho la matto, va sopra il tetto, mentre tu sei in macchina. Beh, Franco. Ehi, Antonello, buonasera. Buonasera anche a te, bene sentito, Macchi. E ogni tanto, quando ho tempo libero, allora già lo accendo questo prezzo. Già lo so. Io mi stavo facendo pulizia in garage, tutta quella roba che c'avevo. Mi sono fatto nero come un nero, mi sono fatto, dalla polvere che c'era. Mi è rimasto anche il televisore in mano, quello grande, la 30 chilica. Ci ha messo in due, a fanculo. Se la piglia in culo, più ci ho avuto nel cassoletto, ma te di. Chiappo. Un garage così si deve tenere sempre in ordine e poi alla fine quando tu ammucchi vedrai che troverai sempre il lavoro da fare. Buonasera, sono da Franco, per Franco, Sant'Antonio, sono da Luca, vai fra. Che cazzo dove metti sei mali qua? Fuori il gabbo. Non ho capito chi è, comunque buonasera, perché mi stai arrivando talmente cupo, cioè come modulazione sembra che ci abbia una patata in bocca, parlando e mangiando in pratica, e non ho capito chi sei. Va bene, dai, rimetto di nuovo il microfono a te. Ed è Franco Sommarino, il microfono l'ho preso e buttato a lunetta. Io dicevo che Antonello, la felicità, non gettare nel cassonetto, il fare il numero verde, e deve stare Antonello. Cazzo, le cambiamo, vedrai che esce meglio quel microfono, te lo dico io. Buonanotte, di oggi la lezione al caso. Avanti, Gianfranco. Franco comunque da solo, non l'altro Gianfranco. Sì, ciao Marino, ben riascoltato dopo tanto. Sì, in compagnia anche di Costanzo. Eugenio, avanti Costanzo, lo senti a Marino? Positivo, dai, buonasera Marino, ti ho sentito per la prima ora, dai, qua a Camerale così a Portotorro sulla mia, ciao Costanzo, ciao anche Eugenio, bene, ti sei presto, avanti che buonasera. Ci sono anch'io, sto andando a mangiare il cucciolo, arrivo subito, ciao Marino, avanti Gianfranco. Ok, li prendo io allora, la visa che mi hanno fatto entrare. Ciao Claudio, Marino, Franco, Costanzo, che c'è altro? Non sembra nessuno, credo di non aver sentito nessun altro. Ciao Fra, tutto bene, avanti. E allora, ti sei fatto le ferie in Africa, se ti hai fatto questo periodo? Allora, in Africa ero con la Rauchidi, raga, adesso già è passata comunque, dai. Ma sono tirata dietro per un mese di questa storia, avevo la voce bassa e non riuscivo a parlare più di tanto, perché dopo un paio di minuti mi faceva male la gola e allora ho dovuto pazientare, insomma, ecco. Riprende e fai girare su, ciao Mario, intanto avanti Fra. Sono stato anche io un paio di settimane così, anche se ero un po', diciamo, febbre niente, però mal di gola e mal di testa e via. Un paio di settimane sono stato, poi piano piano già è passato tutto. Ok, avanti Marino. Ciao Giulio, mi hai sentito per il tratto, ciao a Claudio, buonasera. Sono Giulio, e anche stamattina a Zabacco, tutte queste belle ragazze, in mani che corte e così via, dopo si lamentano. Io ammetto che è caldo, ma non è periodo di sfogliarsi assieme, piano piano. Avanti, Antonio. Io faccio molto fatica a capire a Marino, anzi proprio non lo capisco. Costanzo! Sono rientrato, buonasera Giulio, buonasera Marino, buonasera di nuovo a tutti. Finalmente città di ferro, tutto il raggio. Ok, scusate, le prendo io per salutare anche a Eugenio che sapevo, cioè non avevo capito che c'era anche lui. Ciao Claudio, di nuovo, a te già ti avevo sentito, se non intendo a te, guarda che non intendo, no? Cosa vuoi che ti buona. Sì, Costanzo lo sento bene ancora, anche se in BM, però si sta allontanando un pochino, ogni modo lo sento ancora molto bene. Avanti Costanzo, Giulio da questa parte. Ciao Giulio, buonasera, ben sentito, qua sarà pesante, avvicinamento città di Ferro, buonasera, buona ascolta. sì, una bomba, sì. Una bomba, ma arrivi a meraviglia qua. Radio perfetta, ultimo, ultimo per la truppa. Facciamo girare, avanti Claudio. Scappa, ribuonasera a tutti. Eugenio sta dominando l'universo dal furgone, ecco Prisci. Bene, arrivi Eugenio, fortissimo, alla grande. Non sento Marco con Natalino, dove sono? Ma va, dimmi tu, te ne vatti va la Platamona. Io non lo gioco come ti sigue. Infatti ci ho parlato a Platamona, sei tu che non mi sei andato. Avevo capito, scusa, pensavo che non ci eri andato. Va bene, va bene. Allora facciamo girare avanti, Giulio, fai girare tu, vai. Ok, sì, e io rilancio subito a Franco, che adesso tocca a lui il passaggio. Avanti Franco. Ehi, capo. Cosa? Attacca e brucia il numero anche io, ma va, Iso. No, no, sono un radio, dai, non c'è niente, non c'è cazzo. Andate a toccare, sono un radio, non ho fatto importanza la cosa bella, vai. Ehi, capo. Così... Così se bene un po' di fumo, bene. Bene, bene. Mi sa che è entrato Marco. Marco, ci sei? Ma perché Marco, a casa il 7, se stai arrivando talmente basso che sicuramente Franco non ti ha sentito. Ripeti, Marco. Ok, d'accordo, dai. Controlla pure. Va bene, dai. Facciamo girare ancora. Avanti, Marino. È importante. E chi è che non è uscito di radio? Avanti, qualcuno che non è uscito di radio? Chi è che non è uscito di radio? Marino, tu sì. Sono pezzo, sto scendo giù. Sì, tu stai uscendo bene, non ce l'ho problemi. Cioè, a parte il fatto che è cupa, però stai uscendo bene. Vediamo, quando sarà Sandro per caso? Sandro, sei tu per caso? No, non può essere lui. È un segnale 9 da me. No, sto chiedendo, non è che sto dicendo, sto chiedendo, perché alle volte può capitare. E vabbè, dai, evidentemente no, ha problemi di radio. Facciamo girare ancora, dai, l'amico che non è uscito in radio, ripresentati che senz'altro sarebbero accetto, non ci sono problemi. Facciamo girare ancora, avanti, avanti qua. Vediamo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare, il canale è aperto. Tranne sempre agli infami. Avanti Franco. Ehi capo, vabbè, lascia perdere. Niente di importante. Allora, ma non avevo. Vabbè, dai, no, niente, quella. Non dico niente, non dico. Sempre malato. Beh, non sono malato, ho mal di gola e non volevo affaticare la gola, perché io purtroppo almeno una volta all'anno mi succede così, mi si abbassa la voce, mi si abbassa e fin quando non guarisco completamente, se parlo poi peggioro la situazione. E allora ho preferito rimanere assente per un attimo, anche se ascoltavo, non tutti i giorni, altri giorni sono andato in giro a fare delle passeggiate, per cui in qualche maniera il tempo l'ho trascorso ugualmente. Va bene, speriamo di continuare a stare bene adesso, dai. Facciamo girare, avanti Marino. E giù riprendo, ma devo chiudere, mi sta chiamando delle forze per giocare un po' a pallone, sì. Lancio tutto Eugenio, quello che torniamo di sono citati. Avanti Eugenio. Ehi, ciao Marino, ho capito vagamente che devi chiudere, io non riesco a capirti, mi dispiace. Non riesco a capirti. Va bene, dai. Niente. Riprendi giù. Guarda che c'è la friggitrice accesa, spegni la parola. Cosa hai detto, Costanzo? Che c'è una friggitrice accesa. No, no, non ho niente io acceso, io esco normale. Io esco normale. E il piantuccio che ho fatto bene è quello che mi rende così forte. Questa è bella anche lì. Vabbè, dai, ciao Marini, ci sentiamo alle prossime, allora, dai, buona partita. guarda che sta attento a non ti fortunare, per carità, perché non fa come sta fatto la Juventus, quindi va bene qua, non è fortunata. Ciao Maria, contenta anche il ragazzo, dai, anche lui ha il diritto di giocare con lo zio. Avanti qua. È il nonno che lo studia, è il nonno. Avanti Claudio. Ah, no, già nonno sei, Maria. Sì, c'ha 9 anni nelle poste. Nelle poste c'ha 9 anni. Non è mia figlia, è quanto la figlia di Andrea, come sta? Figurati, c'ha 9 anni nelle poste, perché avanti ci sono più tardi in casa, dai. Ciao, ciao Maria, alle prossime, quando vuoi, te l'ho detto, siamo qua, ci fa piacere. Ok, oggi si sentiva un bel il vento, dai, un bel amplificato col microfono, c'è veramente molto bene. Nuovo toccare, ottimo impiantino, alla grande. Avanti Franco. Ehi, capo. Ciao Marino, buon proseguo di serata, buon tutto, dai, ci sentiamo tutte le prossime ore. Ehi capo, infatti si sentiva, è vero, si sente il vento con la finestrina aperta, con l'amplificato, è per quello che gli ha detto la pigitrice. Avanti, Marco. Alla grande, vai, riprendi. E beh Marco. Sono tutti adesso, dai, sicuramente tutti. Chi è che non ascolta a Marco? Dite chi non ascolta Marco, io lo ascolto bene adesso. Chi arriva a Fondoscara? Lo sento lo stesso, non a Fondoscara ma già c'è il segnale, dai, va bene, infatti lo senti. Sì, basso, ma già lo sento, basso, ma già lo sento. Comprensibile al 100%. E Eugenio, lo senti a Marco? Ragazzi, lo stesso, Marco! Sì, l'ho sentito basso basso, ma no, non riesco a capirlo. Costanzo, lo senti a Marco? Ok, ciao Costanzo, grazie per la chiacchieratina, dai, alla prossima, buon lavoro, ti mando gli amici per i saluti, vai qua. Ciao lo straniere, alle prossime, siamo qua, quando vuoi, un abbraccio, vai Fra. Sì, capo, vai. Ciao. Straniero, Costanzo, ci sentiamo tutte le prossimine. Buon proseguo di serata e buon rientro. Vai oggi. Ciao Costa, ya ci vediamo e ci sentiamo. Ciao ciao. Vai Marco. Ok, niente, ti dico subito come funziona la storia. Tu quando ci lascia semaforo, di punti mi devi arrivare 9.30. Se arrivi 9.30 vuol dire che l'antenna è a posto, se non arrivi 9.30 vuol dire che con l'antenna la buttare. Avvisami quando si al semaforo, ok? Vai qua. Fatti chiaro amicizia lunga, amici, te gioia aiuto. Ti dico già buttala via con l'antenna, perché sta arrivando appena 9.10 o si lancia 9.15 con modulati, per cui almeno minimo dovresti arrivare lì da l'edicola 9.20-9.25, al semaforo 9.30, e oltre il semaforo addirittura anche 9.35, perciò con l'antenna non è funzionante, non è performante come si deve, ok? Riprendi, tanto gli amici già ti sentono ugualmente, fai girare tu pure per Franco e gli altri amici, dai. Abbiamo 9.10 appena, 9.10 è troppo poco, oh Marco, no, non è possibile, ci mancano almeno 20 puntate, se ti mancano come minimo, anche 25, perciò no, con l'antenna non va, dai, perlomeno non è performante. Avanti Franco. Com'è il mio segnale? Guarda il mio segnale, dimmi. Aspetta, secondo me arriva più meno Natalino qua con l'antenna di macchina che ha messo a casa sua che lui in macchina. In effetti sì, se facciamo questa considerazione sì, in effetti è vero, però ripeto, 9.10 appena, ma voi scherzate, 9.10 ma arrivano da Sassari e quando sono segnali bassi, se non arrivano 9.15, 9.20. Marco, tu pensa che da casa tua ne arrivi 9.15, 9.18, perciò dai, fai un pochino la somma e vedi un po' come la studia. Va bene, avanti qua. Ciao Fra, cosa hai detto Giulio? Fra o Cla? Claudio. Cappa, è effettivamente così, un po' scarsina quell'antenna. Ma che antenna è Marco, quella piccola? Allora, è lunga. Le baraccelle della forestale, mollone, cromato, il tiro in fibra di vetro nero. È un po' scarsa, io sono abituato a sentirti dalla macchina che arrivi molto bene, questa è un po' scarsa, non lo so perché. Guarda, o è l'antenna o il capo, dobbiamo controllare all tester, se capì? Va bene, controlla e facci sapere. Claudio, dimmi bravo. Se ci piace questa antenna che ho io qua, con la base magnetica sulla capota della macchina, e ci metto una radio, ci metto, esco più forte di lui. E minimo 20 anni che non la uso. Sì, ma senza ombra di dubbio quella c'è qualche problema. Sicuramente c'è qualche problema, perché dalla macchina non può uscire così basso, perché a tutti ascolto alto, da DVD sino da Sassari sino a Platamona li ascolto tutti a bomba, e anche sulla 131 ascolto a bomba, e a lui no, vicino non lo ascolto. Avanti Giulio. Ok, sì, beh certo, in effetti è così, non può essere a posto come si deve l'antenna. Adesso non so se dipende dall'antenna che non emana molto segnale, o perlomeno l'impianto è fatto male, qualcosa c'è insomma, ecco, perché qua quando lui si trova al semaforo mi deve arrivare 9.30, questo è scontato perché ho controllato tantissime volte tutte le persone che sono passate lì al semaforo, tutti 9.30, 9.30, 9.35, per cui è della 9.10, ci puoi immaginare, bella differenza, no? Ocla, io mi pare che devi dare un po' di assistenza anche a quella antenna di Marco mi, nella macchina. E l'antenna di Natalino, diglielo Claudio. Ah, l'antenna di Natalino è, adesso mi sei arrivato a Santiago, sì, vedo un po', dove sei adesso, in questo momento? Dalla muraglia, vicino a, come si chiama? A Ocha. Sì, e la macchina e l'antenna è Natalino, ma sono in macchina mia. Ah, ok, vabbè, evidentemente dovrà sistemare anche quella l'antenna, sì, Santiago sì, appena qua, perciò. E questo segnale giusto mio, o Marco, non è il baracchino, eccetera, eccetera. Questo è il segnale giusto, con pochissimi watt, sto andando avanti così, però il segnale è quello sincero. Avanti ancora Marco, dai, adesso man mano che arriva a Sassari ci senti meglio anche Claudio. Hai problemi, hai sicuramente qualche problema a quell'antenna, Marco. Figurati, scusate un attimino, dove sei in questo momento o è oggi? Sono qua, sono a 131. Chiudendo di fare qualche commissione, ecco, adesso sto girando per Santa Maria. Figurati, sei dentro la Santa Maria. Figurati, e sei lontano da dove sono io. E lei è oltre 9.15. Ecco, facciamo un rapporto adesso con un'antenna che stavo usando Marco poco fa e abbiamo detto tutto. Ecco, come trova oggi? 1, 2, 3. Praticamente alla cosa, alla UPAS. Non vi dice abbondante, sì, qua, perché sono distante da te. Sono dall'altra parte della città, bella radio, bello tutto veramente, ottimo impianto oggi. Infatti, a me mi arriva Eugenio, sì, modulati 7, mi arriva, sì, 7, e radio 5, bella perfetta, mentre coso da vicino mi arrivava Santiago 3, radio 2, 3. Figura, sei tutto dall'altra parte, lui è tutto dall'altra parte, l'ho visto io, e per dire, no, è l'ultimo passaggio che mi ha fatto era oltre 9. 9.10, l'altro precedente è 9.15, per cui vedi bene, alla UFA, alla SAI, dalla Sabate, l'hanno preso io, e Marco che era sotto casa a 9.10, guardi lì appena. E, ecco qual è la comparazione che si può fare fra un segnale e l'altro. Va bene, se ti prendi ancora fra, vai. Sì, va bene, magari c'è qualche problemino l'antenna, poi a vedere come la sta usando, se la sta usando la cappotta direttamente oppure la sta usando con la base magnetica, e magari c'è qualche problema di massa o qualcosa. Ragazzi, io sono arrivato solo e scendendo me ne sto. Ciao, a più tardi. Ciao Eugì, ci ascoltiamo le prossime, oppure più tardi, se coincide. Avanti Claudio. Ciao Genio, alle prossimine, ci riascoltiamo, stammi bene. Ciao Eugì, alle prossime, ci sentiamo. Avanti Marco, se stai ancora ascoltando? Non mi senti più, buh? Il capo è sottopassaggio, non si passa. No, è a Sassari, sottopassaggio non c'è solo. Allora, è andato da un po' di riso. Ehi, chiappo. Ehi, vabbè, secondo che zona è adesso non lo senti più. Ehi, va bene, dai. Una cosa strana. Perché anche lì, senza andare lontano, anche Gianni da quando parte da casa sua, andare a lavorare oppure rientra fino a casa sua, arriva a bomba qua. Prego. Registrato, prego. Ehi, buon Gianni arriva a bomba sempre. La produzione io non l'ho preso mai, ma con segnaloni però, no? Non con segnalini, segnaloni addirittura. Avanti, prego. Buonasera, Lacchi Fortunato da Predaneta, un controllo di Santiago e di Adario, grazie. Ciao Lacchi, ebbene, chiudo da questa parte, Santiago 8, la radio è buona, ultima, per me va bene, avanti ancora Fortunato. Scappa dai, dopo tanto stiamo piazzando la stazione, dai. Salutami la ruota, dai, faccio bianco un attimino, semmai dopo riprendo per il saluto. Sì, ma devi pagare, però faccio salutare la ruota, meglio salutami la ruota. Ciao qua. Ciao Fortunato. Eia, Luca. No, non sono Luca, Franco di Sorso. Ciao amico mio. Ehi amico mio, tu che stai arrivando anche a Sorso? Sì, che arrivi Fortunato. Scappa, dai, un attimino di bianco che mi sistemo il tutto, dai. Ok, riprendete. Eia, ciao Fortunato. Avanti giù. Ok, ciao Fortunato. Se ti accorgono ancora a controlli, siamo qua, non ci sono problemi. Sì, beh, in effetti sì, vediamo un po' se riesco a contattare di nuovo Marco, o a meno che non sono usciti dalla macchina, perché sicuramente sono già arrivati a destinazione. Attento Marco, ci sei? No, sono entrati a rubare e imbriagarsi tutti e due, Claudio, ma sono entrati quelli. Lasciali fare, sono giovani. Certo, lasciamoli fare. Claudio sicuramente al telefono. Vabbè, dai. E Marino, se stai ancora giocando al calcio, buona partita, dammi il risultato, quanto sei di seno, quanto sei di gente, se mi stai ascoltando. Riprendi fra, intanto Claudio sicuramente al telefono, se no avrebbe risposto al volo. Avanti fra. Sì, sono al telefono, arrivo. Eia, va bene, non c'è problema. Alleluia. Marino, cioè, mi fa se giocare al pallone, o se giocare al danno. No, è fortunato che arrivava un basso, però l'ululazione è bella. Sì, beh, sì, in effetti sì. A proposito, lo sai che quel baracchinetto che è Eugenio è un 3009 a 100 euro, a un centone appena. Ma ci ha preso praticamente, nuovo è, no, non usato, è nuovo. Audio, una faglia audio qua. Buono. Aspetta, se l'ha provata a 100 euro un luogo, ha fatto una parola, non un affare solo. Fatto sì, vedi. Sì, se ce n'erano altri a chi gli serve è buono prendercelo, perché quello lì è una bella radio quella, eh. Beh sì, in effetti sì, ma infatti lui quando me l'ha detto dice, ho visto, dice su eBay, ho visto a 100 euro nuovo, dopo di secca, no, non usato, nuovo proprio, da negozio. 100 euro. Vediamo subito in presta, perché è meraviglioso quel baracchino lì, soprattutto per la macchina va benissimo, figurati. Con 100 euro cosa vuoi comprare? Ma metà prezzo in pratica, perché oggi un 3009 costa intorno ai 190, 195, anche di più secondo dove lo compri. Giulio, un attimo che devo scendere giù un attimino. Ok, d'accordo, adesso siamo qua. Sono rientrato. Oh, intanto lei, beh. Mi stavo ponendo dei piedi, dei barilotti di attacco di piedi in argento. Adesso li svuoto dalla plastica che c'è all'interno dell'isolatore, dato locato alla massa, così piglio me li perso. E in taglio non vedi niente insomma. Anche io sono rientrato, Anche io sono rientrato, eccomi qua. Ok, allora dove sono questi PL in argento? Non sono PL, sono attacchi per PL. In pratica c'è due punte del polo caldo al centro. Li ho procurati perché tanto tempo fa con Gianni Bravo 2 siamo scesi giù al Alghero. E lì siccome c'è un aeroporto militare, una specie di scuola di elettronica, hai capito? E ci avevamo caricato un bel po' di roba, condensatori, valvole e cose del genere. E questi piedi d'argento me li ho dimenticati. Adesso vado me li prendo, ma il batte nulla. Gli attacchi centrali, cioè. Potete vedere solo uno, ne ha due. Ok, Andrea, ho capito, sì, beh, meglio così, dai. Guarda, se prendi, dai, che mi hanno chiamato laggiù, devo scendere un attimo, diciamo io così, forse vuole andare a comprare la frutta al negozio qua. Comunque, dai, se prendi, dai, ci sentiamo dopo, dai. Sì, va bene, Giulio, dai, saluto anche a Franco. Chi c'è rimasto qua? Nessuno, quindi è Antonello e io. Fortunato sta facendo roba, Franco si è allontanato, Giulio è sceso giù, Natalino con Marco sono arrivati a destinazione. Non ho capito questi PL con due attacchi, come sono fatti? Mandami la foto. Aspettando la foto ti mando. Ti mando la foto adesso, aspetta due minuti. Mandami la foto su WhatsApp, voglio vedere che si attacchi strani, vai, non ti compisci. Sto andando a negozio qua. Comunque sono contento, ha recuperato tutto Sandro, l'hai saputo, sì, tutto quanto, tutto, bene, bene, bene, sono contentissimo. Dai, ci sentiamo dopo, devo uscire per andare a negozio qua. Ehi, giù, sì, era in radio poco fa, sta piazzando tutto, vai. Fate sentire dopo, se ce la fai, se non ti auguro una buona serata. Ok Claudio, contattami tutto eventualmente, dai. Adesso scendo giù, devo comprare delle cose e poi vediamo cosa vuole mia moglie. Va bene, a dopo eventualmente. Ah, d'accordo, a dopo. Ah, dove sei? Aspettate un secondo, cos'è fra? Sai che sono barilotti, ancora non sono piede. Qui sono barilotti. Che con i tuoi sono qui. Manda a Marco a vedere se li conosce lui, io non li conosco. Sono barilotti, ma il doppio del barilotto normale, sono più lunghi, sono. In argento sono qui, sì. Ho capito, ma quei buchi a cosa servono? Quello è positivo in pratica. Sono due positivi, per due, evidentemente il cavo doppio, no? Non so come è fatto il cavo, in pratica la massa va all'esterno e due, evidentemente il positivo è diviso in due, forse essere delle credenza, ma forse avvenne uno solo, capito? È un attacco militare, hai capito? È un attacco militare quello. C'ho anche dei cosi, dei relemi, quelli che vanno per effetti 7B addirittura. E ne ho 7-8 di quei relemi. Non l'ho mai visto, ancora sto controllando, ma non l'ho mai visto. Adesso faccio vedere, ti mando i relemi che ho io. Ce l'hanno bene perché tutti siete qui, aspetta, ti mando la foto. E non manco il rame, sono placcati loro dentro. Le lamelle. Aspetta che ti mando la foto. Sì, mandami la foto. Hai visto i relemi? Sì, li ho visti, però no. Non lo so. Sinceramente parlando non li conosco, non lo so. Sono per il coso sono questi, per gli effetti 7B. C'è scritto Alied contro T154 per 69, poi 1500, cioè 15.000, c'è scritto 74E 07P. questo va bene per il coso, per i 27 B sono questi, perché io avevo messo i 27 B, rimane se funzionava benissimo, sì, questi costano un bel po' di soldi, sono quasi introvabili, insomma. Beh, la mobilità, la bambina, c'ho con i sacroli, di quelle valvole piccoline, ciò. Figurati tu, sembra che me l'ha rimasta mi. Addirittura c'avevo il coso in ferro, se ce l'ho ancora quello, per poter girare la come si chiama, la il radar. Figurati. Non l'ho mai visti. Non so, era momentanea, avevo preso io e Gianni Bravura, un giorno siamo andati lì dove lavorava lui, capito? Siamo andati lì a questa base militare che c'è lì a Alghero e ci hanno regalato tre scatole di roba, e capito, ci siamo divisi. Siamo in tutto, alimentatori, in kit già fatti, già pronti. Figurati tu, i finali, 275, di tutto c'era, alimentatore della 7 ampera, 15 c'erano in kit già pronti. Uno, ti ricordo che avevo fatto l'arma a uno di quegli alimentatori, che c'era a casa sua, avevo messo dentro la custodia del 27B, ti ricordi, sto parlando dell'alimentatore, avevo tolto il circuito normale, ci avevo pensato quell'altro, quello del militare, e usciva benissimo, erano 7 ampere. Sì, sì, questa roba sinceramente parlando non l'ho mai vista. Vabbè. Sì, è una puta di la roba. Questa è la roba, questa è la roba voluta, questi componenti qua, le esistenze, no? Addirittura in ce la farà, l'esistenza di precisione più che altro. So. E allora devi roba, c'è un cazzo di piedi, la faccio tutta fuori, pensavo che la roba, faccio un cazzo di roba, sto pulendo tutto il cazzo, figurati. Sì, già va bene, ma è Marco che fino a fatto, attento Marco, Marco con l'attorino stanno provando l'antenna. Sì, ma quello c'è l'antenna con il modulo del VHF, c'era, va bene con l'antenna per la 27, quella che aveva pesato in macchina, nella punta stasera, quella è l'antenna per VHF, non per 27, questa per 27 deve cambiare lo stilo. E buono, non lo so, me l'ha piazzata io, giovedì. E se sto facendo con quella, non era per 27, sta tranquillo. Perché ce n'è una simile, ma il mollone è un pochettino più corto, e non per la 27. Invece quello c'è un mollone lungo, quello stilo per la VHS, capito? Ma stava cambiando lo stiletto, gli mettevo lo stilo di coso, di radiale di 27 e andava bene per la 27. Non costava niente, perché c'è l'ingresso e c'è una bettina. Avrebbe stretto e era stato tranquillo. Io non ci ho pensato che lui stava usando quell'altra lì per la 27 la verità. Su, diciamo ti aspetta un secondo, dammi due minuti, stavate la posta anch'io qua. Va bene, sentiamo fra un po', ho detto controllare una cosa, c'è anche un HF da Rampazzi, mi manca il coso. Costa 30 euro completo, adesso vedo un pochettino del... faccio vedere la cosa, domani se lo vuoi portare via, non è rimasto nulla. Ci vuole la tastiera tipo quella del telefono, un coso, è un note, UHF. Ehi Antonio, sono qua, dai, non ti preoccupare, già tutto sotto controllo. Ehi, d'accordo, dopo la tastiera. Ciao. Chi è? Ehi, cucù, avanti. Così con cucù non ti avevo riconosciuto, perché non sono abituato a sentirti così facendo il cucù. Ma pensa anche Franco una scopa, anche lui ha detto la sua. Ah sì, buonasera. Questo canale c'è una app che sta partendo. No, io sto mettendo a posto, ho fatto gli spostamenti. Stavo mettendo a posto, sinceramente. C'è Antonello, non so se c'è ancora Antonello. Poi Marco, Natalino, si è impegnato in macchina, giù sceso giù, Franco di Sorso è impegnato, Eugenio è con la moglie in giro a fare commissioni e c'era un bel di gente stasera, sono contento che almeno qua si sente un po' di gente. Sì, ma beh sì, diciamo che il vaccino la diversità deve entrare per forza di cosa, per forza no, no, fai pure forza, ma guarda che lì hai dimenticato qualcosa, c'è una idea di polvere. Non dico la parola, sotto il radio il basamento alto era un po' che non le spostava, tutte tolte a terra, pulito tutto, anche sotto poi mi sono spostato il computer sull'altro lato, capito? E quindi adesso insomma attenzione, buonasera a tutti. Ma Info, non è che c'è qualche antenna veicolare di quelle scorte però? B10M della Comet, l'unica che mi è rimasta, B10M della Comet, ce l'ho su in mansarda, capito? Quando ti serve? No, mi serve perché la mia, siccome la macchina è fuori, tra caldo e freddo, lì c'è adesso avanzato il bambino, ma l'ha lagata dentro e l'ha rovinata, così, nonostante fosse un'antenna molto buona, pazienti, non si può recuperare perché si è tutta affaticata. B10M della Comet, che già fa, devo salire a prenderla, se ci vediamo domani salgo su e te la prendo, capito? Quindi ce l'ho su in mansarda, ho le chiavi in macchina, tocca fare un sacco di cose, se poi ti serve stasera te lo faccio, non ti preoccupare. Sì, nel senso, non stasera, domani dipende dall'orario, di pomeriggio sono libero, di mattina sono produttore, parto insomma alle 9, quindi ci vedremo nel pomeriggio domani. Sì. Ma devi scendere a Porto Torre, c'è un lavoro domani. Se tu vuoi passare prima di scendere a Porto Torre se te l'attacchi alla macchina, però la mia è attacco PL, Eccellente, ottimo, anche il mio. Anche il tuo attacco PL dietro, cosa c'è? Perché quella della Daimon? È simile, alta 40 cm, che l'avrei vista se me la volta. Questa sì, più o meno, 35 cm, nera, con la spiraletta VU. Funziona molto bene, bella Comet. Ciao Fra, mi presto, vado perché sono in pigiama, metto il pantalone da tutta, salgo e te la prendo, tu domani mattina, forse quell'ora lì, prima di scendere a Porto Torre, se passi un attimino ci vediamo sotto, te la avviti e te ne vai, ok? Ok, se non ti serve più la tengo e te do qualcosa. Gianfra, ma abbiamo problemi noi, tu avvittatela e ti nandi, va bene? Fai finta come che sia già attaccata la macchina e che sia la tua, capito? Non avere nessun problema, come tu non ne hai mai avuto con me. Tu domani mattina, prima di scendere a Porto Torre, se passi a casa, mi chiami prima, magari solo scuia, poi la tosse c'è di nuovo, sono a Piazza Resegna per il mio caffè, però stai tranquillo che sono già attivo. Ma metto già in macchina, tu mi chiami, prima di scendere al produttore, se l'avvisti e stai andando, ok? Ok, va bene, se no non ti crea disturbo, a quell'ora, va bene, perché tanto io alle 7 sono nella tua zona, perché vado a fare colazione in via Corso, piazzato la Perugia, e poi mi sposto, poi devo fare un po' di spesa, e alle 9 magari ti faccio uno squillo, scusando per l'altro collega che c'è qua in radio, il ping-pong. Anche prima, non c'è problema, io dalle 8 sono già attivo, capito? Tanto mai devo stare presto, devo portare il cane, poi devo andare al barbiere, quindi non ti preoccupare. Tu quando ti liberi da fare la spesa mi chiami, va bene, non aspettare alle 9, come ti liberi mi chiami, il telefono è già acceso a quell'ora, ti avvicina che te la prendo lassù. Va bene? Ok, va bene. Va bene così, domani ci sentiamo. Se ti serve qualcosa, già lo sai. Anzi, se ti serve, guarda, per coincidenza, sono un amico, per puro caso c'è un bellissimo apparato CB. Un 550, se qualcuno interessa. Oh, tu sei scappato, non interessa nessuno. Oh, che è successo? Funziona? Sto scendo? Sì, sto scendo. Hai cercato il contattore? No, perché non ha risposto nessuno. Stavo dicendo che c'ho qua un bel apparecchio, sperando che non salti il contattore. Un CB HR550, chi è interessato, se è interessato, sarebbe un bel affare. Io mi sono arrivato, non so se c'è Valerio, se ti sente, se ha bisogno di qualcosa. Dimmi, tacco un attimino che vado a prendere questa antenna, se no poi mi dimentico, ok? Bianco, per me ci sentiamo dopo. Ok, tanto non so lì, sui mazzati a scendere, 5 minuti e sto arrivando. Vai a piedi. Non prendo la macchina. Non prendo l'ascensore, vai a piedi. Se poi vuoi fare proprio il togo, butta la corda e sali con la corda ammazzata dalle stelle. Valerio, mi senti? Sì. Ah, qua, non ci arrivo. Come si fa a mettere? Attenzione, Valerio, mi senti? Ciucacciù. C'è Antonio. C'è Valerio, ma forse non mi sente a me. È stato proprio bello. Oh, li audio Valerio, ci stavo ascoltando, c'ho anch'io l'antenna della VU, quella con la TKPL, la Diamond, ciò, aranciata alla, vabbè, la soffetta, perché usavo, se ti ricordi, fuori dalla finestra, e mi chiamava coso, da Fiume Santo, Fabrizio. Vabbè, ce ne sono tanti, non dire. Io ce l'ho con la lunga, ma non ne metto antenne lunghe, perché con quella arriva dappertutto, però è anche vero che è un bel imbarazzo. Non è alta, è un metro, forse un metro e dieci, ma non è altro. Però da fastidio. Un metro, questo non so se un metro. Forse un... aspetta, mi misuro io. Le gambe mi arriva a mezza pancia, quindi anzi dai piedi a mezza pancia, io sono uno ecco, e c'è salta neanche, quindi già è corta. Vabbè, ma con la ricorda famiglia è corta, come 30-40 centimetri al massimo, anche se c'è molto guadagno in meno, però è più adatta allo scopo, ecco. Vabbè, anche quelle si sfasciano, sono questi. È entrata l'acqua e si è distrutta. Ma dove si vede? La macchina in casa? Beh, forse c'è una chiamata. No, è in casa, ma scusate, sta in casa, c'ho roba di 6 antenne in volo, è andata ancora. Io pensavo che si andava per caso, non sapevo già visto che hai 7 antenne, non ho visto mai la tua trazione, quindi avanti che volevo entrare il palito, Sì, è grande, io sono in campagna, ma ci sono antenne di poli anche di 80 metri, ce ne sono due, quindi spazio già ce n'è. E a voglia, se ti piace in campagna mia, sta tranquillo, non arrivati da parte dei domini, a fare la raccolta di rame, in via del Prodottore. Figurati tu. Infatti per quello che io utilizzo filo elettrico normale, che fa lo stesso bene, però costa anche poco, non sa mai che qualcuno, però se lo porti via. E che succede? C'era un 120 metri di cavo, ci hanno staccato il cavo dal contattore, fino alla casa ci hanno fatto via, per bene, ha capito, 100 metri di cavo. Però noi avevamo altri 300 conservati e li avevo queste vatte in garage. Adesso quando le canciamo il cavo lo mettiamo sottoterra fino alla casa e così attacchiamo dopo la... tutto. Capito? Faccio un intanto elettrico come si deve e installo con quel palo, ci metto le antenne. Allora ce l'avevo tutti i giorni, ce l'avevo tutti i giorni, adesso non ci sto scendendo, non c'ho morto, non c'ho niente, mia... e quindi una cazzo ci facendo a fare. Ogni tanto qualcuno si passa lì a fare con la scusa di fare le lumache, capito? Faceva la verdura degli altri. A un certo punto ho detto, dove la vostra? Io pianto, passa un imbecille, se tutta la roba, anche la parte, anche la macchina a padrone, un tanto mi faccia il culo, interessante. Stavo facendo le lumache, cazzo, non so, con un solo spagava le pietre e siamo una busta piena di verdura fregata dal vicino che ci avevamo noi, ma adesso non c'è più quello, ormai in pensione. Ma ci ha fatto un bel busone di lattughe, pomodori, tutto cittadini. Niente di stata male del pisa. E la parte di quelli dell'AS che passavano. C'erano l'abitudine di uscire, venire dove eravamo noi e farsi la frutta e verdura gratis. Allora tu fai una cosa, per il cavo elettrico lo colleghi due volte al contattore, o a due contattori a seconda, e per quello che fare un loop, per fare un loop così uno stacca dal contattore, la corrente arriva dall'altra parte e viceversa. Dopodiché vedrai che formazione lo trovi. Ovviamente tieni sempre il pavimento un po' umido, no? Così fai un bel lavoro. Mentre invece per la verdura ci metti un po' di anticristallogrammi, così. Non è tu, così quello che fa il volpino lo trovi lo stesso. Quindi per quello c'è problema, ma se metti, vabbè, non è che sono tutti fabbrici, è la verità. Però a volte quando ci metto una bella tentazione di fame vicino, senza quello non si avvicina, non c'è male secco. C'è troppo di queste randaggi in giro, guarda. Infatti c'hanno ragione, quando entrano senza stare tanto a fare questi cavoli di buonismi di merda, quando entra una fucilata è peggio per lui, non è arrivato il medico da entrare, poi le chiedi chi è. Sì, adesso è tutto abbandonato, la verità, siamo 4-5 anni che non facciamo più niente, quindi hanno sfondato le porte pensando che ci fosse la barata, ma non c'era niente, ma quindi adesso quando c'è un po' di soldi prendo e la sistema come si deve e vediamo di già lì se ci passo l'estate lì, almeno sto bene, mi pianto un po' di frutta, un po' di verdura, metto un po' di come si dice, faccio del cinto nelle, qualcosa di ferro da e me lo non c'entra nessuno, chiudo la campagna come si deve, di chiudo la muro ci metto questa vette là, vette metallica e basta, vabbè che è stata orta se vogliono saltare, ma a me lo servito il pilo dentro, già c'è il cane, non ti preoccupare, no, già rimosse i fianchi al limite, faccio per lui è entrato. Invece c'è un grosso vantaggio che posso per due volte chiudere la strada, perché se c'è gente che conosci all'inizio della strada, fa un colpo di telefono, metti la macchina in traverso, sono fuggite, non sono riuscite, per quasi un chilometro, no, per quello un chilometro si trovano la strada senza fine, se sono in macchina. E infatti ogni tanto passa qualche camioncino con la gruetta, no, guardando, però non hanno mai messo segni, non hanno mai, se ne sono ben guardati, perché ovviamente lo sanno, poi tutta gente armata, sono tutti cacciatori, gente delle forze dell'ordine, quindi a qualcuno le hanno promesso quando ci venire, perché se no ci vieni solo ma non te ne vai. E io ubbrisco. Poi la massa dei maiali al limite. Ma quello che vado più. A me non ti condannano, non potessi mangiare i maiali. Non trovavo nessuno. Io voglio andare avanti. Non c'è nessun altro, dopo tutti i paletti sono. Faccio un po' di gente. Adesso vuoi più di sciogliere. No, c'è Claudio che è andato un attimino a prendere una cosa, ma evidentemente ha seguito il consiglio di Valerio, ha fatto le scale. E quindi adesso c'è la fanno, c'è la fanno avanzata. E così Antonio, è un'epoca di tante rotture veramente di palle, già che devi stare attento alle cose tue, in strada, perché c'è un sacco di comunicazione, cioè. Poi anche dentro casa oramai stava stanno un po' facendo sudare. Però, è nel gioco che prima o poi la gente si scoccia e non è che le deve sempre subire. Quello sì. Ma io c'ho un cane in casa, meno male. C'ho il cane che quando sente l'ascensore e gente magari si mette a parlare, eccetera, eccetera, si mette a bagliare anche di notte. Sono fortunato per quello, guarda. Non è che è zanna, perché non ho zanna questo, ma quello che c'avevo giù in casa di mamma, quello già l'avevo paura davvero. Quello c'aveva la maniera dentiera, c'aveva. Chi lo conosceva, se si permetteva poco a poco di rompere le balle, gli pigliava la mano. E quindi era un cane da guardia, perché si metteva sempre vicino alla porta. Quando sentiva che le chiavi sopra mi che ero giù io, usciva fuori in terrazzo e si metteva a bagliare. Io quasi tutto. Da quanto mi voleva bene. Ma non è mai trattato male. Il fratello invece si coricava dietro, aveva 120 kg, come lui si girava appena appena e si metteva dietro al culo, gli faceva. E lui rimaneva fisso, fermo. No, un uomo che non si che con gli unica. Già solo meriterebbe, no? Qualcuno già solo meriterebbe, no? E così, vediamo se Claudio è rientrato. Claudio non la sta cercando. vabbè, è così. È così. C'è anche Valerio, ma a me non mi sente forse. Sì, ti sentirà, non è il problema. Poi a forza di non sentire il QRM anche qua, ma tu sempre lo sguardo, perché tanto qua QRM non è che ce ne sia sempre a livello 3, proprio quando a certo parte non è 5, quindi viene anche bene a metterlo, perché se no fa questo rumore che impedisce, ti dà, non sai, non sei abituato alle radio silenziose. Io lo so, no, io QRM qua ce l'ho un bel, la verità, ho provato 140, 180, QRM è sempre andato, l'unico... A parte il presidente Jackson, la stessa cosa, l'unico che non piglia qua è il 2009, quello che ho io, è l'S9, e con il 4000 basta, quindi sono perfetti per la 27 dove abito io. Poi se in seguito mi piglierò un... Ho deciso di pigliarmi un quadribanda, non devo stare a sventiare, prima comprarmi un HF e poi prendermi un V e U, tanto mi sono fatti i conteggi. Da prendermi un HF buono, con ogni filtro e cose del genere, il minimo mi viene 400 euro. Poi, a prendermi un V e U, per auto non mi bastano 400 euro e quindi... Sorpasso il budget, a un certo punto me ne piglio uno unico e va a far culo. Ma comunque il problema è con la centrale di trasformazione che ci avete vicino, e tutti quei tralicci, e non c'ho parte del QRM da lì. Lo so Gianfra, tu mai io 140, il signor Zampa è 140, ma soltanto l'avevo fatto fuori, 140 non riusciva a tenerlo. Hai capito? Perché era una cosa allucinante dal QRM che ti tirava fuori. Il QRM è sempre 9, tutti i giorni, sempre 9. Prova a metterci di uno dei primi HF che ho fatto io. Non so se lo trovo ricordi, lo Yaesu 757. E ne vedi, 9,40 di QRM ti farebbe di... Per carità, che schifo l'apparecchio. Guarda, se avete trovato l'effetto 250 avrei messo quello, perché l'ho avuto, io nel risiedo non sentivo manco una mosca. Addirittura parlava fianco a me Roberta, ce l'avevo a 40 metri da casa mia, in più quello del Pierpaolo Allora, al primo piano del palazzo dove abitavo io, non sentivo né uno né l'altro, loro sentivano a me, ma io non sentivo a loro. Uscivo quei 30-40 watt per poter uscire bene, la verità, perché quando mettevi a manetta si usciva tutto strano, perché è banda stretta. Però era una cosa allucinante, era veramente bello. L'unico problema, cazzo, è dove metterci la massa a terra, perché se no ti pigliavi la scossa, perché era valvole. Però era una cosa impressionante, era di una pulizia, sentivi tutte le persone chiare, e senza correre né nulla, sentivi chiare, senza nulla, perfetto di radio, vedete le cuffie come se fosse solo un misterio, era. Io l'avevo venduto, avevo pigliato le FT7B, che era più o meno la stessa cosa, la verità, perché usciva bene, e basta. Che c'è sotto? Dove senti? La propagazione. Insomma, se tre, però, non vado a correre, ma sempre. Il... ma no, ho fatto gli apparati, non ho fatto di passamento, dice che erano dei scatoloni, dei cosi pesanti, eccetera, però funzionavano bene, non so, io con dice Vittorio, dice 71 è laico, ma che fuori produzione, vecchio, eccetera, ho avuto quello proprio il top, l'8005 credo sia qualcosa che arriva anche fino a 3 giga, ma quello lì, questo qua che sarà degli anni 70, penso, del 71, se lo mangiava lo sai come, come niente, proprio gnam. E lo so, guarda. L'unica cosa mi vorrei pigliare, guarda, è un FT101 o qualcosa del genere, ma costa 500 euro, per quei 500 euro preferisco aggiungere qualcosa in più, mi piglio parecchio, come si direbbe, che è uscito da poco, tanto con l'apparecchio antico cosa fai? Devi stare sempre a cambiare valvole, eccetera, eccetera, e quindi sei sempre spese, non te stare girare. Quindi un apparecchio nuovo, l'ultima generazione, la fanculo e lo pago quello che lo pago e poi piano piano già lo sapevo usare. Non è che sia tonto io, è vero quello. Quindi, mi poteva per la QRM che si è filtrato per le scariche elettriche e di questi cavoli italici che abbiamo noi da 15.000. A parte il traffico che ho adesso per i conti, il traffico di auto qui è tutto pieno, in pratica la domenica sta bene perché la maggior parte dei parcheggi sono tutti di fuori, tutta gente di fuori che va lì al Conti a fare le visite mediche, hai capito? Quindi parcheggio non vede manco uno, e dentro ne vola. Mi hai fatto ricordare una cosa, ma di fronte all'edicola, nella via che c'è per andare al Conti prima della fattoria, però quindi sempre carbonato, e c'è l'edicola, di fronte ci sono quelle case, no? C'è anche il bar, eccetera, eccetera, ma quelle che si vedono sono sotto le antenne di Pier Giacomo, ci abita ancora? Allora, sotto il bar ci abito io, lì, Pier Giacomo rimane nelle palazzine prima, in via Morandi rimaneva lui, non c'è più, comunque non abita più lì, la verità, ha cambiato casa, anche Corso ha cambiato casa, lì abitava Bruno Fata addirittura. C'erano fatte arancioni con le case di comunque ci sono ancora. Le hanno rinnovate con le palazzine da poco e non c'è più nulla sopra. Non solo che abita Pier Giacomo adesso, comunque lui non c'è più, non ci abita più lì. Lui abitava proprio a fianco a via Morandi. In via Morandi c'è un'antenna VHF e poi l'altra non ricordo cosa sia, che risulta praticamente di fronte all'edicola, che è via Morandi, quello in effetti. Sì, ma non c'è più, l'hanno buttato tutto nella mondezza, hanno fatto le passi da poco, capito? C'era una direttiva da 15-20 elementi, capito? UHF c'era più, c'era il motore che è stato sotto e un'antenna della V buttata lì sotto. Hanno fatto le passi e ci hanno buttato tutto. Poi invece lì a Carbonazzi in via come si dice, a fianco alla farmacia, c'è uno che ha la stazione al primo piano lì, e c'è dove c'è roba buona, non lo so. E poi un altro ce n'è un pochino più giù che c'è una tela fatta che era la pesca. Allora, cosa facciamo qui? Non me lo ricordo. Comunque, vabbè, è sta roba dei tempi andati, perché a fare ascolto ad esempio sul wifi non c'è più nessuno, e neanche io. È raro sentire qualcuno. Sono tutti sui link nazionali, giusto perché qualcuno c'è sempre lì. Ma in locale, insomma, c'è sempre meno gente oramai. Sono tutti vecchi, non c'è niente da fare. Io sono infatti. Andare. Ti lascio adesso, la che vado a casa di mia sorella, giù. Sono piano, devo tenermi di putti, devo fare il babysitter finché non rientra mio cognato adesso. Allora ti sentiamo verso le 9, o stavolta dopo le 9. Non sono male, dai. Ci stiamo già a stammi bene con tutto. Alle prossime. Ciao Antonio, ciao. Io sono sceso, tu sei sistemato già a fare. Quando vuoi. Beh, anche se vuoi venire adesso, problema c'è insomma. Adesso sono appena rientrato e non è che ne abbiamo saputo. Domani ti faccio una chiamata, ma non c'è problema. Poi quando sei libero, anche se sei impegnato, mi dici un orario, o quando vuoi, non è una cosa urgente, è un'antenna, c'è anche se autocostruita, però c'è. E niente, vediamo un po'. No, domani mattina allora, come ti ho detto io, se un attimo devi fare la spesa mi chiami. Tu scendi a produttore, c'è con quella lì, capito? Ora sui massaggi, non sento una scatola, quindi tranquillo, mi già apposto la vinti e stai partendo. Vabbè, ti chiamo domani allora dopo aver fatto alcune cose, se mi dici che alle 8 sei già operativo, non c'è problema. Faccio squillare telefono. Eia, non problema. Ma io non l'hai sentito? No, è venuto ieri, mi pare, avanti ieri, che gli ho dato il portatile. Ti senti questa preparazione? Sì, preparazione sotto c'è. Gli ho prestato il portatile, deve servire. 3-4 giorni. Basta. Poi io non l'ho sentito. Ma non è che entra sempre qua, magari è impegnato adesso. A parte il fatto che oggi è iniziato la manifestazione di dal 31 sino al 3, mi pare, quindi è impegnato sicuramente. Ah, ecco quando era, sì. No, adesso non ricordo. Ecco, sei sicuramente impegnato con la roba lì. È così. Stavo dicendo con cosa, come dicono, con Antonello, ma in via Morandi, dove c'è l'edicola, di fronte, cioè abitavo a Pier Giacomo, ma io siccome ci passo molto, molto spesso la mattina presto in quella zona, ci sono sempre due antenne, una QHF bassa e una un po' più alta, proprio dove c'è la Pier Giacomo, e le ho viste da poco, tra l'altro, sarà una settimana fa, ma sono le sue quelle? Non lo so, Giaffra, non lo so se sono le sue, ma penso di sì che le abbia lasciate lui, non le ha smontate, capito? Spesso ho avuto mia figlia che fanno lì, mi scusi, Non lo so, Giaffra, sinceramente non lo so se sono le sue, capito? Infatti così vanno chiedendo, perché se ne avranno tante di queste antenne, perché oramai stavo dicendo con la gente anziana, quindi non sta lì a mettersi sul tetto a smontare niente, le lascia e poi ci penserà qualcuno a togliere. No, ma infatti mamma mia, se lo su devo ancora smontare quel lottolino piccolo della Toller che l'avevo lasciato attaccato, stavo aspettando il tempo bello che avevo preso il lottolino grande, quindi il sistema VU1, l'ho messo su quello, e sopra VU e sotto c'è la monopalla dei 10 metri. Ho detto, e ho già tutto predisposto, già tutto collegato, tutto fatto, però devo togliere ancora quell'altro tubo con quell'altro coso, tirare sul cavo quello di quello lì, così conservo, farò ancora un po' di pulizia su. E poi adesso vediamo, appena fattire Malta per Amerigo, finiamo col lavoretto di quello rotativo, che a tirare su, orientare, fare qualche caratura ancora, e poi basta, già fra non faccio più niente, insomma, sono stufato, intanto voglio rifare, non ne ho più, perciò rimane tutto lì, quando si perde in ghiaccia, no? Mi dispiace perché un impianto d'antenne è favoloso, tutta roba nuova, però non ne uso. Capita, stavo guardando nel frattempo anche il tempo, domani forse non scherzo, l'aprile dice pioggia e sole, domenica addirittura temporale, allucinante. Vabbè, speriamo che mi lasci libero, no, vediamo domani, ma che ora c'è questo tempo, stamattina presto c'è il coltello, e poi dalle 5 dovrebbe, c'è un po' di pioggia, non è molto, ma c'è di pioggia, mentre invece domenica è proprio temporale. Non penso che non sia vero, perché anche i colleghi, siccome l'unica sono io di turno, mi hanno detto stai attento alle griglie, perché molto probabilmente piove. Noi abbiamo sempre il meteo sotto controllo, quindi per domenica mi pare che molto probabilmente, come hai detto tu, piove, capite? Piove, aspetta che io devo fare solo una cosa qui. Ecco qua. Sì, questo lo mettiamo così. Qua vengo quest'altro alimentatore, tanto non serve a niente. Che silenzio. E nulla. Quindi sicuramente piove, Gianfra, sicuramente al 100%. Allora, io adesso mi do una sciacquata, mi preparo perché c'è il cane qua vicino a me, Gianfra, sono già alle 8, ma lo vedi. Ok. Quindi per il momento ti saluto, se ci sei ci sentiamo dopo, intanto so che tu sei sempre in ascolto. Per quanto riguarda l'antenna è già qua davanti a me, quindi ripeto, domani mattina, nel caso non ci sentiamo dopo, domani mattina mi fai lo squillo appena ti liberi e te la prendi, ok? E linea Natalia. No, non l'ho sentito, io sto andando a portare il cane, infatti stavo salutando Gianfranco, c'è Gianfranco. Vi lascio perché è tardi, se no fa buio e poi è un casino. Vai, ci sentiamo dopo Gianfranco, anche con te, Marco, con gli altri. Sì, ok, ciao Marco. Comunque qua, tipo di informazione, da addirittura consistenti per domenica, quindi piogge forti, temporale dalle 11 fino alle 17 praticamente, quindi parecchia pioggia. Speriamo che si siano sbagliati. Va bene, buona passeggiata. Allora, vediamo se mi sente Marco. Marco, mi senti? Ok, non mi sente Marco. Va bene, rimango in ascolto. Sì, io ti sento bene, diciamo, il segnale è bassino, però oscillante, ma ti sento. Ok, siamo in macchina, dai. Dai, Gianfra, fai tutto. No, stavo cercando il primo per vedere se c'era, ma non c'è, dai. Quindi niente di facile. Vabbè, Gianfra, dai, stiamo tornando a fare. Dai, calzone, sentiamo, dai. Ok, ciao, buona serata. Arrivo subito. Ok, io stavo parlando un attimo, aspettando. Vabbè, sono qua sotto un attimino, salgo subito se ci siete. E chi è che ha detto la parola? Io. Ah, tu lo esercizi. E Cucù chi è? L'altro, Franco, eh. E poi vai, Cucù. Vabbè, ma tu fra, portare il cane, sto andando, già ci sentiamo subito. Ciao fra, dopo, ciao Vale, dai, vado a portare a Pippo. Sveglia, porta anche bene. 4:40 c'è propagazione, fra. 4:40, ci canali, sia propagazione, per il Brasile che arriva sparato, sarebbe bene. Signore, io sto... ma stato, non parla, sono con quello che ti sento. Aspetta che mi metto gli occhi, parlate, a tali a uno, a tali, non va altri, parlate sento chiarissimo, a tali, cosa facciamo? Ma io sto un punto di prosciutto e questo sono molto leale, e cosa hai detto la parte del prosciutto? Oh Natalie, sono qua, Dove siete Natalie? Oh, Santiago 9 sei qua. Ehi, dai, provala con me, ciao concetto. Aspetta, glieli do io i controlli, Ehi, prova. Questa sì, 9 più 10. Questa è quella di Marco? Ma questa va meglio Natalie. Io Marco anche con l'antenna piccola l'ho sempre sentito bene. Mi siete spariti dalla Budi. Marco anche con l'antenna piccola arriva anche la Platamona benissimo. No, non serve, non mi sentiva Franco con la postazione che c'ha dalla Budi, figurati. Ciao Natalie, ciao Marco, mi è sceso un elemento e domani mattina passo a Roberto che c'è da trapanarlo. Ok? C'è da trapanarlo. Perché si è rotto il bulloncino dentro, quindi lo passo il trapano e il maschio e così quello è pronto da innestare l'altro, capito? Quindi io mi sto preparando il materiale per te, perciò datti una mossa. Tanta lì, anche le macchine io non ne ho, sono che l'avevo regalata adesso, ho detto passa a prendertela. Ne ho una VHF monobanda 5 ottavi e l'altra mi l'ha portata Gianfranco che le serve quella bimbanda piccolina, capito? Ma di macchina a me non mi dica nulla chi non ha giù nulla, se no te la viva da là subito immediatamente. Ma qualcosa Massimiliano, appena lo sentiamo glielo diciamo, ok? Che non sia grande, che non sia grande. Ma qualcosa Massimiliano mi pare, 800, non lo so, qualcosa del genere c'è Massimiliano. Quando lo sentiamo glielo diciamo. E le certo c'è, quella che è attaccata, chi se la sarà attaccata ai chili? Una per la macchina ce la procuriamo, non ti preoccupare, adesso pensiamo a fare quel lavoro. Io mi sto già preparando i tubi, mi sto preparando tutto il materiale per te. Cosa è questa cosa? Ehi, aspetta Massimiliano, un secondo solo, un minuto arrivo. Stavo dicendo Massimiliano, cosa c'hai da macchina tu che non sia molto ingombrante? Dipende cosa intendi. È un'antenna che non sia molto ingombrante, dai, non sia una risi, parlo di Luzzi. Qualcosa di Minion c'hai per Natalino? Una PLC Minox. PLC Minox, con l'attacco e con tutto? Devo guardare cosa c'è Claudio, devo scendere giù a vedere. Controlla e fammi sapere. Natalino, una Minox va bene, no? Una PLC Minox, come quella che c'ha Gianni piccola. Guarda, non vorrei sbagliare, magari mi sembra che sia 70 cm o 60, una cosa del genere. Controlla se hai moto, se hai tutto, capito? E fammi sapere, Massimiliano, che io mi sto organizzando, stamattina ho fatto il sopralluogo da Natalino, capito? Devo trapanare un bulloncino di quelli, sai, del piattone telescopico che si è rotto il bullone dentro. Domani mattina vado da Roberto, me lo faccio trapanare, passo il maschio e metto il bullone nuovo, così ce li ha tutti e due, in modo che inizi anche l'altro, perché questo è da un pollice, capito? È bello massiccio, in modo che tenga bene l'antenna. Dai, fammi scendere giù e vado a controllare questa antenna. Eia, controlla e fammi sapere. Natalie, forse la radio era di Marco, hanno staccato tutto, vabbè. Ok, Concesco, quando arriva Natalino fammi chiamare. Ok Claudio, la faccio. Ok Concesco, tanto sono all'ascolto, che forse c'è la Massimiliano un'antenna per la macchina. Fammi chiamare che sono qua. Falla però, che almeno mi sento più tranquilla. Già, sta arrivando Natalino, non ti preoccupare, stai serena, che già sta arrivando. Natalino! Sì. Ma baracchino in macchina di chi era? Non è di Natalino quello che hanno messo in macchina? No, non lo so. Ho capito il concetto. No, meglio sto arrivando subito da casa di Marco a casa tua, ci mette 5 minuti. Ci metterà di più a trovare posteggio, morto e tutto. Ho capito, no, siccome è un vicolo chiuso, ho visto, quindi pensavo si potesse mettere la macchina dentro. No, se no sono tranquillo. E allora meglio non da tutti lì, già lo trovo un buco, non ti preoccupare. Non ti preoccupare, già sono qua. Devi ci provare, capito cosa deve uscire anche lui, e deve lavare che commissioni. Ma io problemi non ne ho, io sono contenta a farmi. Sono stato tutta la sera lì a casa, almeno ha risolto quel problema che stavamo parlando stamattina. Io mi sto preparando tutto il materiale per lui, capito? Lui lo sa, io sono amico da sempre, perché con me Natalino si è sempre comportato bene, quindi io gli ho detto che le davo una mano, e come ti ho detto stamattina bisogna fare fatti, non parole. Mi sto preparando tutto, appena lui è pronto siamo pronti. Ok, sono contenta. Adesso io sono felice perché mio figlio gli è arrivata la macchina. Visto, vai, anche quello allora. Ciao Mari, buonasera. Eccomi, Natalino sta rientrando, buonasera. Pronti siamo. Ehi, aspetta che tu non senti la moglie di Natalino, cosa hai detto con c'è? No, la sento, ho detto sta rientrando Natalino, Sentitela a Marco, che sta arrivando Natalino con c'è. Sì, l'ho sentito, infatti io sono la ancora più tranquilla. Sono contenta quando la persona si mi sente. E allora, così bisogna essere, se no diventa un bordello poi. No Marco, mi sono accorto il piantone che va praticamente in quella staffa che ti ha detto Natalino. L'altro innesto, no? Perché c'ha poi i due bulloni che avvitano per il telescopico, ce n'è uno solo, uno si è rotto ed è dentro. Allora domani mattina lo faccio trapanare la Roberta in officina, le passo il maschio e le metto il bulloncino nuovo, così il piantone è pronto, in modo che poi ci mettiamo lì all'altro, capito? Hai capito Marco? Sto parlando con te, ratta pignara senza ali. Mi sono già buttato sul cibo, dai, tutto il giorno che lo mangio. Quindi vi auguro una buona serata e io mi dedico alla pappattuglia, dai. Magna, va bene. Dimmi Valerio. Questo è un grande costruttore, così è, Come sei di Giuseppe parlando, cosa ti è successo? A me, niente, che è successo? Allora non gridare, che c'hai un microfono sotto le mani. Non gridare, che è tutto impastato. Vado a farmi la luce, guarda, ti ho mandato la foto, quella c'è, senza cavo però. Ascolta, il cavo cos'è? Il cavo cos'è? Di quello che c'è al dadino e del rotondo? Non lo so il cavo che cos'è, boh. Capito, guarda, ti ho mandato la foto dell'antenna, vuole pulita. Il cavo, vero, l'attacco sotto, ma non mi ricordo. Che cavo ci va? Ce l'ho uno io, ma no, non so se va bene per qua. Vabbè, già si può modificare il cavo non è un problema. Ci mette l'occhiello al limite, e si salga per un cavo profeta, vabbè. Dopo quando rientra Natalino le mando la foto. Guardala, 70 centimetri l'ho misurato. 70 centimetri, va bene. Adesso le mando la foto a Natalino. Positivo, là, se c'è qualcosa mi avvisi, un messaggio che sto entrando a farmi la doccia. Ciao. Scappa, buona doccia. Ok, va bene, mandata. Oggi abbiamo il senza cavo, siamo senza cavo. Vediamo cosa c'ho io. Cosa c'ho io di cavo? Vediamo un pochino cosa c'ho io di cavo. Beh, vai. Cosa mi sei detto? Ah, no, non c'è quel processore inserito, sta per quello. Forse anche perché sta parlando a voce un po' alta. Ma allora siamo già, diciamo, siamo pronti, così? Io Claudio non scherzo, no? Mi ho sceso due piantoni già pronti. Devo salire di 4 metri perché sto modificando la staffa, la sto portando più bassa. Ce n'è una in alto, ci vuole la scala aerea. Ma che cazzo, bastava pensarci da prima. Quella la lasci la staffa, dove poi ne metti un'altra uguale a quella e ci metti al piantone. Io come sto, un capo bisogna far funzionare quando mi fai della faccia. No, mi sto già preparando tutto, vale. Tutto, esce lunedì, Natalino compra l'antenna, l'antenna al capo, la scaffa, penso l'abbia già presa stasera. Io mi sto già preparando tutto e settimana mettiamo tutto, vai. Certo che non c'è un sistema più semplice da pensare su questo, no, è un grande casino, è così. Sì, perché è affacciata e non può salire sul tetto, quindi io metto le staffe affacciate, capito? Ma la tiro su lo stesso, e io voglio la tiro su. Mi sto allungando di 4 metri, due elementi, da un pollice e mezzo, un pollice a piantone, e poi tiro su, capito? Telescopico. E poi tiro su, si monta tutto a terra, si piazza e poi si tira su col telescopico. Non abbiamo difficoltà, no, assolutamente. Facciamo i gatti, ma l'antenna va piazzata. Carlo! La piazzata, diciamo, diciamo, in alto va, diciamo, mettere le tasse. Vabbè, tu una volta che tu più di su, però in alto, non so, tiranti o un'altra staffa ci vuole, o no? Che cosa vuole? Scusa, stavo rispondendo a Massimiliano su WhatsApp. Cosa hai detto? Aspetta, Eugenio. Ma questo palo telescopico, quando è in alto, la parte, diciamo, alta, no? Malla, o no? Oppure c'è un'altra staffa, oppure tiranti. Ci fanno due staffe sotto e una sopra da agganciare, entra dentro. Entra dentro, c'è già la staffa. Va agganciato con una staffa palo palo. Hai capito? Va agganciata con una staffa palo palo a quella. Quindi non problem, assolutamente non problem. Ah beh, allora se così va bene, e poi abbiamo qua un professore di... Ok, va bene, perfetto. Sarò pronto, come dice qualcuno, ma sai, ho 5 anni di geometri, qualcosa ancora so fare. Qualche idea ce l'ho, capito, almeno di dire queste stronzate. No, ho calcolato tutto. Ho calcolato tutto. Due a mantenere il piantone e poi ai 4, ai 5 metri, 6 metri ci va la staffa palo palo collegata all'altra che c'è già attaccata al muro, dove c'è un palo telescopico con un'antenna ragno, un'antenna di quelle che come arrivo sopra la prendo, la faccio volare dal terzo piano e arriva sino alla ginnastica. Speriamo allora di sentirlo a Toso, a Natalino, speriamo. Ma tranquillo, ve la dico, senti anche bene. Mantenevamo appena 5 ottavi, 3 radiali, che escono, usciranno un metro dal tetto, però irradia bene, non ti preoccupare, facciamo un lavoro eccezionale. Perché i piantoni sono i miei e non per vantarmi, ma io mi ho detto che sono un piantone da un pollice e mezzo, un pollice, che vanno a sostenere tutto il peso dell'antenna, che quell'antenna è molto leggera, capito, perché non ha energia 5 ottavi, quindi il cavo è un H1000, un lavoro fatto bene. Nonostante sia in facciata, viene un lavoro fatto bene, te lo dico io, poi ti mando la foto quando è tutto fatto. Va bene. Ma in che zona stai del centro storico, più o meno? Qui in Corso Trinità, è una bella zona quella, è una bella zona, perché mi ricordo, io quando abitavo lì arrivavo da tutte le parti, c'era l'antenna anche bassa, mi ricordo che era molto bassa, non era molto alta. Lui è molto buono, molto aperto per Porto Torres e anche per Alghero. Passa in mezzo a Monte Alvaro, lui quindi dovrebbe arrivare benissimo alla grande. Ok, speriamo bene, dai. Almeno lo sentiamo, almeno perché è un casino qua, perché lo è un mezzo casotto, ma speriamo bene, dai, così almeno ci si sente. Ho voluto un po' prendere in mano la situazione, perché sembra che chissà che cosa ci voleva. Io stamattina ho fatto un sopralluogo, mi sono fatto due foto, un disegnino al computer, io ho il sistema appunto di progettazione quando facciamo qualche lavoro, me lo porto a casa, quindi mi sono fatto un progettino e viene un bel lavoro. non hai idee, non è piazza antenna lì, ma a me le idee non mi mancano, quindi l'antenna va montata come dico io e come Dio comanda, pure, non ti preoccupare. Certo, bisogna piazzarla bene, altrimenti se ne siete guai. Mamma mia cara, e vabbè, dai, se va bene così allora. Ok, bravo, io ti lascio. Ah, io ti volevo chiedere una... Cambio! Hai gita. Un po' strano, però io sono di corso. Ieri ero sui canali di Yassin, oltre i 40, su 27.539.95, no? In l'UCBC del Brasile, no? C'era uno che stava chiamando dalla Sardegna verso il Brasile, no? Dopo, vabbè, si hanno fatto una chiacchierata, dopo che si era fatto la chiacchierata, l'ho chiamato questo. Questo qui mi ha sentito, no? Sia da parte mia, che da parte sua, sentiamo però la radio 5, no? E stava trasmettendo da Arbus, è possibile arrivare a Arbus? Sì, sì, sì, sì, conosco anche chi è, non te lo dico, ma so chi è, capito? È un animatore quello, però parla anche molto in 27, Malfattango, è scritto Malfattango, quindi parla molto in 27 in banda laterale su quel, su quei canali lì, su quella frequenza lì, capito? Sì, sì, in banda laterale, quando c'è propagazione, tranquillo che in 11 metri non c'è Cristo, la verticale funziona e anche bene. Era un po' strano, vabbè, ci siamo sentiti, guarda, mi hanno detto, vai, no, no, ho mai sentito Alghero, ma io non ho stesso, non ho mai sentito Arbus, sono a forza in misura, è rimasto fin là, ce ne vuole, mi. Vabbè, ma tanto solo questo, è possibile comunque, va, è possibile che è possibile. Gianni? Gianni? Ratatugnara, vedi? Buonasera, di nuovo, mi vai a vedere che ti tra. Ah, Eugenio, non è Gianni Roppiorun, vai Eugenio, c'è Valerio, l'Alghero, Claudio e io che ho appena finito di incrociarmi. Ciao Marco, buonasera, ciao Valerio, non penso che mi senti, ciao, anche a te, Sparvirus. Poi Sparviero ogni tanto va, ogni tanto viene, è molto impegnato. Oia, oia. Poi siamo andati in un bar vicino a pigliare il caffè, quel bar in fondo alla via, mi. Vicino al Lido Militare, o come si chiama, in fondo, mi, quel bar tabacchi. La torretta, ma io non fretta, guarda, non potrei fermare, non sto uscendo, anzi, ma non è ancora dentro, io sono andato al bar e sono uscito. Sta facendo spesa da andare. Perché è uscita la lavoro tardi e doveva fare la spesa. Capito? Eia. Poi tutta la sera andando, tornando, stavamo cercando disperatamente dai cinesi un tester come il mio. Piccolo, dici che costano poco. Alla fine l'abbiamo trovato, alla fine come sempre. Quindi, aspetta, Claudio. Boh, vabbè. Abbiamo capito che l'antenna di Natalino della macchina perde 10 dB. Capito? Abbiamo messo un mozzicone di antenna, un radiale di una mini Grand Plane, no? Tutto caricato. E arrivavamo 9-10 anziché 9. Cioè l'antenna di Natalino perde 10 dB. È proprio... perde segnale, non si sa perché ma è andata. Non serve l'antenna, ma mi senti ancora? Ce lo credo. Grazie, la passi. Ma dove sei? Capo Torres, sono lì, quasi in piazza. Fammi luce che c'è in fondo a scala, io. Stai andando a lungomare. Non è possibile, non esiste. Tu sei a Sassari, disgraziato. Adesso guarda, sono il distributore dell'Aesso, a lungomare. Sei il distributore dell'Aesso di Sassari. Salvo Torres. Adesso sono alla Regaretta. Da Porto Torres non saresti arrivato così, non fondo scala. Sono a Sassari qua, Va Valerio, dimmi tutto, Valerio, mi sono appena ingozzato, Ah, ti sei ingozzato? No, tutta la sera fuori ieri, no? Ci hai tradito? Sì, eravamo con Natalino tutta la sera fuori e quindi ero digiuno tutto il pomeriggio, tutto il giorno. Ma mi sono rifatto adesso, dai. Sì, vabbè, dai, va bene così. Va bene così. Sento sul fondo poco a Eugenio. Eugenio, mi senti? Sì che ti sento, Valerio, sì che ti sento. Eugenio. Claudio. Ehi, scusate che stavo togliendo delle staffe a questo tubo. Oh, Eugenio. Sì, dimmi. Rispondi più subito, cioè non stare così a tenermi in ansia. La penna piccola che c'hai nel cofano del camper, quella piccolina che hai fatto vedere a me, con la spirale, eccetera, quanto l'hai pagata? Quella l'ho pagata in autogrill 25 euro, 20 euro. Ok, va bene. A chi serve? Gliela do 25 euro quanto l'ho pagata, però le manca la base, capito? No, era una mia informazione perché ne ho visto io una su internet e quindi stavo guardando a vedere quanto costa, niente di particolare. Niente di che. Claudio. Allora, Marco. Quindi noi abbiamo messo, quando arrivavamo a 9.10, avevamo un antennino striminzito, un radiale di mini Grand Plane, lungo 70 cm, tutto caricato, insomma, in minimi termini, 9.10. L'antenna di Natalino rispetto a questa antenna in minimi termini perde 10 dB. L'antenna di lui perde 10 dB, quindi c'è qualcosa che non va. Se perde 10 dB in poche parole, rispetto al minimo sindacale. C'è qualcosa in corto, Marco, lì le discussioni sono poche. C'è qualcosa in corto, non lo so. Cos'è caricata, libera, com'è questa antenna? Non la conosco io. Guarda, è uguale all'antenna dei Baracelli, uguale all'antenna della Forestale. Mollone cromato e stilo in fibra nera. Capito? O l'hanno tagliata troppo e se no non si spiega. Capito? Con quel mozzicone 9+10, con l'antenna di Natalino 9, perde 10 dB, c'è qualcosa che non va, è palese, infatti lui adesso vuol trovare un'antenna della Lemma o della Sirio con quell'attacco, perché le abbiamo confrontati, un tipo di attacco Lemma e un tipo di attacco Sirio hanno lo stesso attacco, lui vuole trovare un'antenna con quell'attacco lì, in modo da non cambiare la basetta, te capì? Poi se proprio non la trova, drasticamente dovrà cambiare anche la basetta, quella attaccata alla carrozzeria. Cambio! Claudio è collassato, mi... Da come gli ho detto, è collassato. Marco, sono qua, cazzo, fammi togliere queste staffe che mi sto preparando il materiale per Natalino. Eia, ok. Chi è, Natalino? Eia. Eia, c'è Eugenio Sassari, Claudio che si sta zuffando le tue staffe, e c'è anche Valerio da Alghero, dai. Eugenio, vai per Natalino. Ciao Natalino, se mi senti, non lo so. Qua Shuttlevax, Re Daniel da Shuttlevax di fronte alla Volkswagen, cambio. Già ti ascolto. Bene, quindi il punto è questo, Natalino. Gli ho detto a Claudio che rispetto a un'antenna ridotta a minimi termini la tua perde 10 dB. Quindi deve essere che l'hanno, non so, accorciata, o si è rotto il filamento dentro, nell'avvolgimento, non si sa. E infatti più che così non è, l'hanno messo, la bamba non gli ha dato. Infatti. Pensa mettendo un'antenna da 1,5 metri quanto rende, minchia, o da 2 metri, mi ciu, solo che 2 metri è troppo lunga, è veramente troppo lunga. Ci stanno anche alcune antenne Midland lì, sono sicuro. Tu mi devi dire grosso modo che lunghezza vuoi, se tiene watt, se non tiene watt. Natalino, qua città mercato arrivi fortissimo, ti ho sentito alla grande, forte. Quindi 1,60 o comunque sul 1,50 m, dai. Marco! Dimmi tu, tutto. Ma c'è sempre il mio bip? Sì, il bip c'è sempre, come il mio è. Ah, ok, ok, mi sta avendo il dubbio. Va bene. Quello era quel bip triplo che avevi con quell'altro microfono. Ma non mi piace, sembrava una frase. E Pomponio usa questi bip multipli. E infatti va un extraterrestre Pomponio. Sì, ma Pomponio è veramente extraterrestre, dai. Come lo vedi, no? Non può essere umano, dai. Perché? Non lo vedi com'è, che c'è un alieno. Ah, doppio in gamba Pomponio, ovviamente. Ecco. L'abbiamo visto da GBC oggi, è andato a comprare una batteria ione di litio. Eccomi qua, oggi dove sei? Dove sei che non ti vedo? Qua, sono qua. Sì, ma dove, esattamente dove, che c'ho il radar, non ti vedo. Ho fatto io il Bricoman. Ah, tu sei con quel furgone bianco? Qua, sono con Mercedes adesso. Ah, ecco, con Mercedes, sì. Cos'hai, anche tu il video baracchino? Io c'ho Google Maps, sto seguendo Eugenio, capito? Aspetta che ho trovato l'antenna, esci a vedere. Sirio, Super Carbonium... Carbonum 27, vediamo quanto è lunga. È all'attacco di Natalina di Natalino, esce a vedere. Potete parlare nel frattempo, mica è entrato Natalino, Claudio. Vabbè, non ho sentito. Natalia, le viruse. Stiamo richiamando. Ma forse ero le prese con quel tubo, capito? Ho proprio due staffe, c'erano attaccate, insomma, mettiamo la roba, lo faccio trapanare e le metto il bullone nuovo. Così il piantone è già a posto, poi ci mettiamo l'altro e siamo a cavallo. L'hai vista quell'antenna? Simile a quella da voi o diversa? Ho mandato su WhatsApp la foto di un'antenna. Simile a quella da voi o diversa? Tipo PLC 800, Minox, del genere. Sembra che sia così. Vabbè, il bimbi se quella lì va bene, no, va bene, capito? Poi ti faccio sapere quanto la vuole, non lo so, va bene, se va bene quella lì, si prende quella, se no ti vengo un pareggi, alla mafia a base, capito? Ok, va bene, quindi siete andati da lì su Pianimorto e voi a 90 euro per l'antenna, non ci siamo andato tu bella a piedi però. Beh, io l'avevo pagata così, anche perché mi serviva in fretta. Avevamo preso accordi con Pomponio per piazzarla. Poi sa, succede qualcosa, tocchiamo come è successo magari qualcuno che manca un radiale, sai, manca un pezzetto, può capitare mica l'assemblino, perdendo pezzi in fabbrica. Poi almeno vado alla GBC e reclamo, non so, su internet. Beh, certo che sì, ci mancherebbe altro. Vedi, il terzo uomo è Antonello, quindi avvisiamo Antonello e viene lui. Quindi, capite? Sono a supporto, mi piace tutta l'antenna, con Antonello, l'ha vulcanizzata bene, sistemata bene, io e Natalina ci occupiamo del resto. Hai capito? Non farò più tutt'ontomi. Ah, Pomponio fa l'uomo ragno, lui che non teme le altezze. No, non c'è bisogno di altezze, no, hai capito che lavora la terra? Ai fini di dire con queste altezze non c'è nessun bisogno, perché la staffa che c'è in alto, la lasci stare quella lì, non te ne frega niente di quella lasciala dov'è, che non te ne affutti nulla di chi a noi. Noi ne mettiamo un'altra bassa, capito? Ne mettiamo un'altra bassa in linea a quella, capito? E non facciamo altro che innestare giù, capito? Dove la scala arriva da 4 metri ma ci tronca un gordo, alla testa della finestra, ne mettiamo una nuova, la facciamo andare a linea di quella, ok? A linea di quella lì. Quando il tubo passa a fianco a quell'altra staffa che c'è uguale, le metto una staffa paro paro, boom, e la tengo ferma, non anda più a lungo. Piazza di Santella, cambio! Sì, Silvia, devi vendere un monumento Mazzini per piazzare l'antenna. E dillo che non le vuoi piazzare, ti fai più bella figura. Dillo a me che sei tu a piazzare l'antenna, dillo a me. Anche tu puoi venire, non ce n'è problema, capito? Non ce n'è problema. Potete venire tutti. Abbiamo il vicolo con le sedie, le sdraie, ombrelloni, abbiamo di tutto. Coca-Cola, birra, popcorn. Oh, ma non è che poi ci troviamo in 20 persone e tutti guardando, in 20 persone maneggiando questa antenna. Come stanno quelli di Acciona? Uno che lavora e tutti che guardano. Ma io posso appaesare che c'ho quello capo, là se devi venire a travagliare, a chi tu a Shiny vai? Ah, tu a Shiny vai, tu fai travagliare all'altro, quindi mutu. Oh, mamma, cambio! No, Marco, no, non ci deve essere nessuno, tranquillo. Siamo io, Natalino, tu, se vuoi venire Antonello, va benissimo, se no battiamo in tre. Non c'è grande cose, il progetto è già fatto, il lavoro è già pronto. Dobbiamo solo togliere quella staffa dove ci ha agganciato l'antenna della macchina e metterne una nuova lì, capito? E poi il resto viene da solo. Se tu lo vedi, dici qua, hai avuto un'idea fenomenale. Perché io quando arrivo all'altezza dell'altra staffa che c'ho in alto, le metto la staffa palo palo, da quella al palo che mantiene l'antenna. Io penso di manco un momento di maestrare la immobili di Sant'Enna, capito? Rivolge la staffa palo palo e dice è come che sia staffata a muro, perché quella staffa è staffata a muro con tassello chimico già la giuvita, quindi tu sei andato, cosa stavi guardando? Le mattonelle, cosa stavi guardando? Non le viste le due staffe, una bassa e un'alta, quell'alta rimane con te, quella bassa la cambiamo, la mettiamo uguale a quell'alta, e poi il resto già m'arrangio io. Tu essendo pipistrello no, di giorno non esci, quando c'è il sole esci la notte, se vede il geco non vedi nulla. Ma c'ho il radar, no? C'ho la guida con gli ultrasuoni, ma non ti credi, vedo anche nel buio. Tu vedi sotto a grattarmi. Sì, a piano piano stanno immaginando, però ti viene voglia di stracciarne tutto. Così diventi scoglionato. Valè, non ridere, non ridere Valè. C'è anche Valerio sotto controllo, guardate, sta sempre ridendo. Pippo il nonno, vieni, guarda che c'è pipistrello, saluta pipistrello. Saluta la pipistrella. Morsica, morsica, dove il gatto? Dove il gatto? Il gatto, il gatto. Prendilo Puffi, prendilo Puffi. Attento Valerio Alghero, cambio. Attento Valerio Alghero, cambio. Faccelo mangiare Valerio e Magnelli. Cosa cambio? È ciambato, sì. Dove sei arrivato? Che voglio vedere i segnali sempre. Io devo sempre confrontare col camper. Dove sei? All'entrata di casa, praticamente. Sto per entrare a casa, nella via di casa, vai. Una bomba è diventato visto Eugenio, gran Marco. Santiago 9, la produttore se mi sta arrivando. La radio favolosa, favolosa la radio, bella, bella, bella. Bravo, bravo, bravo. Abbozzami. Un'antenna tipo quella di Natalino, ma in acciaio inox, LEM, Alfa Tango 291. Bella. Natalino, un'antenna uguale alla tua col mollone cromato, però lo stilo in alluminio. E l'attacco è quello. Caspita. Purtroppo quando la compri ti danno anche l'attacco, e così te ne ritrovi due però, ma peccato. Di quali Natali? UHF normale. Ah, ho capito, ai. Poi c'è questa LEM Alti Alfa Tango 1200, 1,35 m, però chiede pochi watt. Credo molto pochi. Fisce vedere. 1,35 m, 150 watt di picco in SSB, quindi 50 in AM, un po' pochi, forse è meglio l'altra. Sicuramente. Tu, se ci senti a dopo, se no ovviamente vi saluto e ti vorrò cenare, va? Ciao Nattalini. Ciao Concesse, stai ascoltando. Ciao Valerio. Ciao Eugenio. Saluta la signora, sicuramente con te. Ciao Marco. Dai, se ci siete a dopo, se no a domani. Buona serata a todos. Ciao. Ciao, ciao domani, ciao ciao. Ciao Claudio, ben sentito, a domani. Buonanotte a tutti, dai. Buonasera signora. Ciao Claudio. Ciao Natali, dai, ci aggiorniamo domani, ok, intanto io sono a casa anche domani, ci sentiamo in radio, ci aggiorniamo, se volete un caffè chiamatemi, io non ho problemi, ok, io passo a Roberto un attimo e faccio trapanare questo tubo, ciao, ciao, ciao. Poi alle 9:10, Natali, sono così stanco, lo sai? Sono veramente stanco, siamo tutta la sera fuori, infatti adesso mi levo le scarpe e mi stendo, mi accendo la TV, dai. E già ci sentiamo domani, poi già abbiamo tutto il tempo per modulare, dai. Buona cena Natali, buon tutto. Ci sentiamo domani, ciao anche a Valerio, ciao anche a Eugenio, se ancora all'ascolto. Ciao a tutti, dai. Buonanotte a tutti, a domani, ciao ciao. Ciao a domani, ciao a tutti, su che macchia ci è arrivato, ciao a tutti, buonanotte. E meno male che l'abbiamo trovato, lo in testa era l'ultimo, perché nessuno ne aveva, boh, che strano, tutti ce l'avevano, io l'ho visto. E va bene, l'importante è averlo trovato, dai, molto comodo, piccolo, tascabile. A me è molto molto utile. Ok, buonanotte Natali, buon tutto, buona cena, a domani, ciao ciao.